When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at WMATA.com/doingourpart. Simone Pizzi e Italian Podcast Network presentano Stefano Biggio, Giuseppe Sasso, Il Distruggitore, Simone Andreozzi, con la partecipazione straordinaria di Luigi Marrone, Dietrologia Videoludica, il lato B dell'industria del videogioco. Bentornati a Dietrologia Videoludica, siamo qui in questa ennesima puntata che in realtà è la 9, dedicata, è un segreto, no, c'è il titolo, quindi che potrebbe dare un piccolo aiuto, ed è il microcosmo della N, dove N sta per ninfomani forse, ma non lo so, potremmo chiedere agli altri partecipanti, co-conduttori, co-amici, a diverse cose, tipo, non so, Simone Andreozzi, detto il cognome. Buon salve a tutti. Non rubare le battute degli altri, però. Confusione, qui c'è già della confusione, ma appena a 18 secondi di trasmissione. Ciao a tutti. Già non si capisce una mazza. Allora, Simone Andreozzi, cognome, detto il cognome. Per cosa sta questa N, visto che questa puntata l'hai creata tu, l'hai gestita tu, l'hai impregnata del tuo essere? Allora, N sta per Nintendo. Che dai, che qui non sono infomani. Beh, che ne sai, che magari là dentro non ci sia. Che... Ah, bello, allora aspetta. Già in altri lidi si parlava di. E un altro ospite se lo dovrebbe ricordare. Stasera si parla di Miyamoto con dei bambini. E... Aia. Quindi potrebbe essere ho qualcuno. Paura. Ninfomane c'è. Comunque, sì, no, era nato dal. Era un'idea nata qualche mese fa dalla crisi di Nintendo, che anche oggi sta vivendo con Wii U. Fare un po' un punto della situazione, cercando di non dire sempre le stesse cose, ma magari riusciremo a dirle lo stesso e saremo sempre molto contenti. Dici? Vabbè, noi andiamo avanti, io aspetto sempre gli infomani. Comunque, c'è il nostro simpatico e soprattutto molto sardo co-conduttore, che è probabilmente il co-cooperatore, co-costruttore di questo programma, che è il porno divo d'Oltralpe ormai, Stefano Big Joe Biggio. Ciao amici. Eccomi, sì, aspettavo il mio turno pazientemente per parlare... di porno, sì, infatti esatto. Ninfomani, porno, c'è sempre di mezzo il sesso, insomma, più o meno, per aumentare lo share della puntata, ovviamente, perché quello tira sempre più di un, esatto, un carro di buoi, come ben si sa, esatto. Beh, sì, Svizzera, io sono qua, cioè, soprattutto detto? No, qui sì quello tira in tutto il mondo, quello c'è poco da fare, non so come si dica in tedesco, ma non lo voglio neanche sapere, mettiamola così. Bene, quindi, ma oltre a me non sono solo io, ma abbiamo anche il piccolo Luigi Marrone. Ciao a tutti. Eccolo, dottor di ritorno Brown, da Doc Brown. Doc Brown di ritorno. Ritorno dal futuro. Di ritorno dal futuro, da certo, una gita a Gardaland. Ecco, essendo piccolo. Quindi cosa parliamo oggi? Parliamo della Nintendo, di ciò che sta accadendo, di ciò che accadrà, di ciò che è accaduto. A me non mi caga nessuno, però, eh. Come? Giuseppe, tranquillo. Ma non mi hai presentato, Tranquillo, adesso ti presentiamo. Devi aspettare un attimo. E a parlare con noi di questa bella cosa c'è anche l'ancora più piccolo Giuseppe Sasso. Konnichiwa. Ecco, un bambino gigante, lo dico. un po' come quelli di South Park. Vabbè, finiamo le presentazioni. No, dovremmo avere Marco Gualdi, che avete sentito all'inizio, sarà con noi, direi che siamo tutti. Io mi sono presentato. Ciao. Luigi è stato presentato? Luigi l'ho presentato Luigi adesso. Luigi è stato presentato, ha parlato, ha anche espresso delle cose. Vabbè, tu Simone ormai è talmente concentrato a quello che dovrà dire Mutare che ormai non ci caga proprio. Stavo rileggendo il doc, scusatemi. Simone è pronto per difendere la Nintendo con le unghie e coi denti, adesso lo sappiamo, ma gli vogliamo bene lo stesso, ecco. Ognuno ha i suoi difetti, insomma. Ognuno ha i suoi difetti, esatto. Ma do velocemente i riferimenti dove potete trovarci, ovvero come sito di trilogiavideoludica.it, dove trovate i podcast e quant'altro, su Facebook e G+, ma soprattutto su G+, dove siamo estremamente attivi. Abbiamo milioni di visualizzazioni. Esatto, però non le guardiamo, noi giriamo la testa all'altra parte in modo che facciamo finta come se fossimo gli ultimi tra gli ultimi. Esatto, cercate Dietrologia Videoludica, ci trovate su Twitter @dietrologiavideoludo e come email dietrologiavideoludica@gmail.com. E se non l'avessi capito, il nostro programma si chiama Dietrologia Videoludica. Esatto. Quindi è una coproduzione, sempre qui l'accento va sulla parola copro, Italian Podcast Network e retrocast.it o Rettocast, vista la parola copro. Siamo anche in qualche modo inficiati con oggi, con Old Games Italia, mi sbaglio. Old Games Italia, esatto, c'è una come si dice, una liaison. Una collaboration, una partnership. Una partnership. Oh yeah, what you gonna do? And And the winner is, quindi trovate anche su Games Italia, su OG, il forum su cui discutere degli episodi, su cui proporre, insultare, lodare. Dove un fottio di gente ovviamente vi accoglierà. Esatto, minacciandovi come siamo abituati a come fare. È giusto che sia, esatto. Anche un po'. Come giusto che sia. Beh, insomma, vogliamo cominciare subito così proprio a sprombattuto, visto che sono passati 18 minuti in completo caos, di cominciare a dare un ordine, ma almeno un barlume di ordine alla trasmissione, così tanto per, insomma. Quindi magari introduciamo la prima rubrica, diciamo l'ingresso, l'incipit della prima rubrica, che è praticamente una rubrica dedicata ad essere imparati all'italiano, che si chiama appunto Imparati all'italiano, che è gestita, letta, condotta, pensata e votata da Stefano Biggio, che appunto ci introdurrà con una stupenda e stucchevole lettura quello che è il clou, il centro, il focus di questa puntata, e poi alla fine ovviamente lo castigheremo. Da che paese vieni? Cosa? La mia lingua, tu la sai parlare? Cosa? Di cosa un'altra volta? Cosa? Di cosa un'altra volta? Cosa? Ti sfido due volte, ti sfido. Cosa? Cosa è un paese che non ho mai sentito nominare? Lì parlano la mia lingua? Cosa? Di cosa un'altra maledettissima volta? Cosa? Allora capisci quello che dico? Sì. Vai avanti. Cosa? Bene. Allora, non so chi abbia scritto ciò. Chi ha scritto ciò? Io. Simone? Bravo. Allora, so con chi prendermela. Simone, scusa. Simone, ti sei ricordato di spostare quella virgola e mettere quel punto più... No. Andare a capo quando non devi. E che cazzo, Simone, ma tutto ti devo dire. No, ma guarda, potrebbe fare effetto già così, Non c'è bisogno, sì. Guarda, tanto ci riesco da solo, lo ben sapete. E quindi inizio adesso, mi butto proprio così come niente. Ricordiamolo che non lo ha provato a casa, No, esatto. Lui non l'ha provato a casa e soprattutto voi non fate la casa. Esatto, non fate la casa, sono un lettore sardo professionista, quindi l'ho fatto altre volte e come cadere, insomma, esatto. Un'assicurazione specifica. Non fatelo a casa. Non fatelo a casa. Don't try this at home. Bene, iniziamo. Giocattoli, produceva giocattoli. In 100 anni Nintendo si è evoluta nel settore dell'intrattenimento, quello più spicciolo, partendo dalle carte da gioco, che gradiva anche la Yakuza, arrivando al Wii U, che pare non gradisca proprio nessuno. Un arco di tempo enorme, dove la casa di Kyoto ha dimostrato più volte il suo valore. Una società a conduzione familiare, legata alla sua terra, che riesce ad entrare nelle teste e nelle case di tutti. Mario l'idraulico è l'immagine dei videogiochi al mondo. La parola Wii è stata quella immediatamente successiva a PlayStation per indicare un aggeggio attaccato al TV dove si fanno i giochini. Ma non è tutto rose e fiori, visto che negli anni non sono così pochi anche gli insuccessi, partendo dal Virtual Boy e avvicinandosi appunto all'erede del Wii, che pare non stia mantenendo le promesse date. Come in quasi ogni prodotto di successo, la filosofia alle spalle è stata sempre lì, come anche i problemi. La guerra sulla potenza dell'hardware e lo scarso supporto alle terze parti, per esempio, hanno lasciato il segno nel bene e nel male, ed oggi ne parleremo insieme. Let's go! Lasciamo un minuto di silenzio per l'interpretazione. Per l'interpretazione, diciamo, è entrato nel personaggio. Vedo che può entrare nel personaggio. Simone, visto che tu hai scritto, ecco, sì, e che il colpevole sei tu, no? Comunque sei tu il colpevole. Che sì, voto dai a Vi do un 8. Ah, addirittura, yeah, sì, giustificalo, sì, perché mi piaceva il testo, no perché ha inventato quella parola di là, da una parte e dall'altra, che gli ha dato più enfasi, esatto, no, perché non ho neanche letto io poi l'ho riletto, ma non ho letto come un testo da leggere, no, non ho impostato come un testo da leggere, e gli ha dato un senso, Stefano, quindi un 8 pieno. Grazie, yeah. Guarda, io ho visto che sì. Quello che hai detto non mi piace. Come quello che hai detto non ti piace? Non mi piace. Ma devi giudicare la lettura, non il contenuto. No, quello che Simone ha detto non mi è piaciuto, per cui okay, a Biggio gli do un 4. Ecco. Però ancora più vaffanculo a te. Poi ho un gatto. Bene, anche dietro il costato, questo, adesso se n'è andato, sdegnato anche Ceppa, certo, attenzione, anche Ceppa se n'è andata sdegnata dopo questa. Ecco. Bene, e Giuseppe? No, Io ti do un 7 perché comunque hai solo incespicato un attimo su Virtual Boy, ma questa è parola straniera, quindi non possiamo, e poi comunque qua c'è scritto mantenendo le promesse, punto, il date ce l'hai aggiunto la tu, promessa così. Il date era lui per... fa una sì, lettura creativa, sto cercando di migliorare un po' questo testo che è scritto da una persona, insomma, sì, cioè... comunque 7 mi sembra già un passo avanti, no? No, comunque no. Va bene. Passo indietro da 8, insomma. Da 8, sì, esatto. No, in generale, cioè, considerando un po' tutte le altre prestazioni negli episodi precedenti. No, non è vero. Allora io confido in Luigi. Luigi mi vuole bene, almeno Luigi. Beh, diciamo che adesso me la cavo veramente di sfuggita, perché eri sordo in quel momento, per mezzo voto in più che ti fa dire hai visto, me lo merito, in realtà è discreto, neanche più 7 e mezzo. Yeah, vabbè, dai. Visto che Peppe ti ha dato 7, cioè 7 e mezzo, vedi. Però il 7 e mezzo di Luigi è pesante, quindi insomma qua, fine, 7 e mezzo di Luigi, ma è un 7 e mezzo nel mondo dei videogiochi o nel mondo della scuola, nel senso nel mondo dei videogiochi, quindi è una merda. no, ci si può giocare, diciamo che è un gioco comprensibile, a volte incespica, a volte c'è delle, diciamo, delle falle, non, nel non si sa se c'è un seguito, insomma, è un gioco di Suda 51, lo definirei. Sì, e questa la capiamo io e te, questa. No, ma generale, no, è anche generale, gioco Suda, ah, okay, 51 in tutti i sensi, okay, in tutti i sensi. Bene, dopo che sono stato maltrattato per aver migliorato questo testo, aver incespicato su parole tipo, ma in realtà è perché noi ti invidiamo perché... la tua sardezza e per cui la sarditudine. Esatto. Bene, direi di iniziare quindi dalla discussione centrale, quindi direi di passare alla parte centrale. Parte centrale. Ok, riprendiamo quindi il niente, visto che non abbiamo ancora iniziato nulla, quindi non c'è niente a riprendere. Si può continuare facilmente, però si continua, esatto. E iniziando quindi a parlare della nascita della grande N o della piccola N o della media N, a seconda di come la volete vedere voi. Questo è il bagaglio che ci portarono le riviste cartacee, la grande N, la grande S, eccetera. Sì, esatto. Poi ormai mi sa che la grande S non esiste più, perché. Perché la grande S c'è più, scusa. No, la grande S è proprio di Sega. Vabbè. La grande S fa i giochi per la grande N adesso. Pensa. Ah, anzi, sono diventati i più migliori amici che hanno pure una partnership esclusiva. E si scornavano alla grande, sì, no, 10 anni fa neanche. Comunque, detto ciò, come è iniziato invece la cosiddetta grande N, la Nintendo, a fare tutto il suo baradan? È iniziato facendo carte da gioco e giocattoli. Ma questo, allora iniziamo. Simone cognome, Simone Andreozzi, è una persona che è studiata. Sì. Che ha letto dei libri, a differenza mia, non ha solo guardato le figure, ma dovrebbe ben sapere che la grande N, la Nintendo, ha iniziato producendo appunto delle carte da gioco. Adesso non mi ricordo assolutamente il nome del gioco. Anafuda, ecco. E cos'altro produceva oltre a queste carte da gioco che a quanto pare piacevano tanto alla Yakuza o Yakuza? All'inizio niente, all'inizio quello era una società di videogiochi, cioè di giocattoli, di videocarte, cioè, era in realtà anche giocattoli. Io mi ricordo la mitica Magic Hand, che era la mano quella che si allungava. Esatto, ma prima di tutto mi sembra fosse il dopoguerra, insomma proprio agli inizi, sì. Agli inizi, quando era una camera, faceva queste carte che erano carte, sì, da gioco, ma era una roba tipo le carte napoletane, no? E come fosse come si chiama quello che stampa le carte da noi, non mi ricordo. La smorfia. No, carte dal negro. Sono i videogiochi materializzati. Si dice dall'uomo di colore, dall'afroamericano. Esatto. L'afroamericano. Oppure c'è anche la Modiano. E quindi da lì facevano queste carte che erano con queste rappresentazioni proprio in pieno stile poi giapponese, pittura giapponese. No, ma non solo, in realtà poi più avanti vennero pure quelle diciamo brandizzate addirittura pure con la Disney. Sì, ci stavo arrivando, tu spoiler, c'è questa abitudine di spoilerare in giro, però stavo dicendo che cominciò poi lo spirito imprenditoriale, il guizzo cominciò con l'idea di metterci la Disney e i personaggi da Disney, quindi allargare un po' il bacino, tutto con licenza, immagino. Era, no? Sì. Lui chiamò Disney, andarono a Disney, la famiglia Yamauchi per chiedere. Disney Sun, esatto. Oh, carte buone carte, e quelli dissero di sì, tra l'altro. Dicevo, e la cosa che rimase curiosa è che la Yakuza ne faceva un grande uso, perché addirittura ogni partita buttavano il mazzo. E quindi loro avevano un tot di mazzi in base alle partite che volevano fare con queste carte, perché alla fine della partita si buttavano. Per evitare il baramento, per dire. Ma quello si fa abitualmente anche nei casinò, bucano il mazzo e lo buttano. Vi dirò, anche cioè nei casinò occidentali. Sì, beh, questo però lì si parlava. Sì, no, di gente dicendo che si spanzava, esatto. E veniva spanzata. No, dico, questo qua si fa abitualmente onde evitare che la gente si spanzi. Mettiamola così. No, ma lo fanno tutt'oggi la Yakuza. Se voi vedete 3D, Super Mario 3D World, appena lo gioca qualcuno, poi sfondano il CD e ne comprano un altro. Insomma, perché cazzo, sarebbe fantastico. Sì, hanno questo bisogno di. Non a caso adesso li fanno già bucati i DVD, perché sono passati le carte. Cartucce al DVD, perché prima bucare una cartuccia poi costava rifarne un'altra, ricomprarne un'altra, soprattutto invece qua sono molto più smerciati, cioè adesso fanno direttamente nel buco, mettono il coltello nel buco, lo tirano fuori, dicono, esatto, è bucato. Hanno dei contatti con la Nintendo diretti, quindi dicono portami 250 copie di Super Mario 3D World, che devo farlo giocare già bucata, grazie, esatto. Già bucate, maledetti giapponesi. E quindi poi da lì la cosa si è evoluta fino ai giorni nostri, ecco. Così facciamo questo salto. Simone, parlami delle case dell'amore. E le case dell'amore. Ah sì, c'è stato un altro tentativo prima le case dell'amore. Dai. Prima di andare nei videogiochi, Nintendo fece anche una serie di hotel, sì, motel quasi a ore per fare le zozzerie. Capito, cara Nintendo. Cara Nintendo, sono passata da motel a ore a. Cioè, al controllo parentale, esatto. Lo sanno bene di cosa si parla quando parla. Beh, anche quella era una forma di parental control, per farli diventare parental, forse. Esatto. Comunque, ma scusami, no, dicevo, quindi appunto l'inizio decisamente non è stato il più standard come compagnia che produce videogiochi o microcomputer e cose così, decisamente, perché ok, producevano giocattoli e sino lì ok, hotel, insomma, te la ore, non è che c'entri. Sembra anche taxi, cioè è possibile? Anche quello interattivo, non mi ricordo adesso. C'erano anche i taxi? Non lo so. Questo non mi. Questa. Ma. No, io non credo. Vuoi che non abbiano avuto un paio di taxi, dai. No, onestamente, sì, ma non è stato un business che in qualche maniera gli ha fatto. Ma neanche quello delle case ore. Sì, tutto sommato, sì, dai. Proprio no. E fino ad arrivare poi ai giocattoli. Quindi proprio dove poi hanno trovato un po' la loro via, ecco. Che bello. Pronto? Ma sembra che ci fosse anche. Ci siete tutti, sì. Sì. mi sembra che c'erano anche delle zozzate atroci, ma comunque ne parlammo in una puntata di Archeologia Videoludica, Archeologia Videoludica, ci autospammiamo così. Ma sì, infatti non so, però penso che chi ascolta qui già sa un po' tutto, nel senso, una curiosità, ok. Poi tu pensi che sappiano? Chi può dirlo? No, possiamo, però facciamo una, non lo so, poi voi siete dei conduttori, so, facciamo una scorza, un passaggio su tutto così, so, una sì, visione, sì, infatti, panoramica, infatti. Ecco, non ci mettiamo fast, per chi volesse, che per chi volesse, no, infatti, per chi pure volesse l'idrologia, infatti, trovarsi qualche informazione di più, a parte andare su Wikipedia, ma se si vuole fare due risate, c'è la 3x2 di la puntata 2 della terza stagione, cioè prendi 3 paghi 2. Esatto, della terza stagione di Archeologia Videoludica, che è proprio Nintendo coio, perché praticamente loro l'hanno, diciamo, messo le mani in pasta un po' in diverse cose, lì ci sono delle chicchette simpatiche, quindi se volete lo ritrovate. E quindi poi ci ritroviamo ai giorni d'oggi, o c'è qualche altra cosa da dire? Simone? No, scusami, dei giocattoli? No, dico, ci ritroviamo ai giorni d'oggi, giorni d'oggi, oppure c'è qualche altra cosa che ci siamo persi nel frattempo? No, beh, diciamo che poi ci sono delle ci sono stati degli episodi che rappresentano in qualche maniera o ferite o dei trionfi in tutta la storia della società da 100 anni a sta parte, perché per farla appunto breve, poi si è passato ai videogiochi, dai giocattoli ai videogiochi, e poi da lì il corso lo conosciamo un po' tutti, diciamo così, insomma, per farla breve. Anche se oggi, insomma, proprio il motivo della puntata scaturisce dal fatto che e qualcuno dicevo, ma gliela farà, non gliela farà, eccetera, eccetera, ci fanno determinate domande, perché la situazione pare sia comunque abbastanza in calo per Nintendo, o almeno a livello di immagine, perché poi in soldoni, a livello economico, le cose sono ben diverse, anche rispetto ai concorrenti. E quindi, insomma, potevamo, visto che c'è chi è pro e chi è contro, potevamo un po' fare un recap, un punto sulla questione, noi di Dietrologia, che facciamo di questo fa un po' il fiore all'occhiello. Sì, ecco. Allora, riprendiamo, direi, con l'ambaradan. Marco, ti vedo poco reattivo. No, in realtà stavo cercando di immaginarmi questa Nintendo che va a puttane con i taxi, insomma. Però vabbè, ho avuto un attimo questo flash, capito? Nel frattempo vedevo anche i bambini che Mario, tutto un guazzabuglio, tutto assieme. Comunque, in effetti tutto torna, perché tu prendi le carte da gioco, vai in taxi, carichi su la peripatetica, esatto. Vai nel motel a ore, poi sei giapponese, quindi ti vergogni. E gioca a carte. E ti spazi. No, e finisce che gioca a carte. Esatto. Purtroppo, quindi. Ecco, dopo questo, cosa è successo? Hanno deciso di tirare fuori i Game & Watch. Ah, esatto. Giusto? Ecco. Penso io ho un autentico John Kagan Junior. Ecco, cos'erano questi Game & Watch? Erano dei giochini portati. Traduciamoli in italiano. Gioca e guarda. No, li schiaccia pensieri. Scaccia pensieri. Allontana via i pensieri, perché esatto. È un passatempo. Oh. Ecco. Etimologicamente parlando. Pensavo che volessi la traduzione di Game & Watch, non la traduzione, nel senso la versione italiana. Gioca e guarda, che lì già deriva dai vecchi cosi. No, veramente venivano anche chiamati mini flippers, se vi ricordate, nelle pubblicità. Che nomi fantastici, dopo. Noi italiani con gli adattamenti, sì, cioè nei tempi passati. Comunque, vabbè, era fondamentalmente gli antesignani del Game Boy. E anche parzialmente dei Jig Tiger. Sì. Quelli, no, vabbè, Jig Tiger in realtà sono una versione poco più evoluta dei Game & Watch, quindi schermo a cristalli liquidi con delle immagini fisse, a seconda del tasto che premi si illumina, o meglio si illumina, o comunque appare si più evidenza, si evidenzia, esatto, si evidenzia una determinata immagine che però rimane statica. I primi mi pare che non fossero neanche dotati di punteggio, credo. forse non si moriva neanche. No, in realtà Ball i primi avevano soltanto dei numeri e andavano avanti in continuazione. Esatto. Quindi 001, 002, 002. Erano molto molto elementari, però sono quelli che poi hanno permesso a Nintendo di crearsi un capitale, diciamo, per iniziare con una produzione più seria, ovvero tirare fuori il simpatico Famicom, ovvero Family Computer U. Come lo dicono in Giappone. Da noi conosciuto come NES. Come NES, esatto, come Nintendo Entertainment System. Mm-hmm. Che se volete la traduzione è sistema di intrattenimento Nintendo, che è un nome abbastanza autoreferenziale. No, il bello è dopo che ci fu il super sistema di intrattenimento Nintendo. Cioè. E stiamo comunque parlando di tre finora, quindi Game Watch, NES e Super NES, comunque di tre prodotti di successo. No? Assolutamente di successo. Beh, diciamo che dai Game & Watch hanno iniziato una scalata e a ritagliarsi un'enorme fetta nel mercato dei videogiochi. Questo insomma, sempre in lotta tra Nintendo, Sega, in seguito anche Sony, in seguito anche Microsoft, insomma, ormai è una compagnia decisamente scafata, che magari non sta passando il migliore dei periodi da un certo punto di vista, ma non in generale, secondo me, perché insomma anche qui c'è da dire che secondo me i prodotti rimangono di buona qualità, vengono sfruttati male, ecco. Però insomma, di questo magari ne parliamo più in là, ecco. Detto ciò, io direi che, quindi, tenendoci i punti, senza fare adesso, non so se continuo con la cronistoria veloce della Nintendo. No, io direi che poi da qui appunto è tutta storia, insomma, storia conosciuta. Sì, quindi Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, elimino Virtual Boy e cose che è stato così. Che in realtà che è stato uno dei primissimi successi. Esatto, e poi portatili, al contrario, Game Boy, Game Boy Advance, DS e 3DS. Mm-hmm. Passando ai giorni nostri, o comunque nella storia più recente, c'è stata la svolta di Nintendo, che ha portato i videogiochi nella casa di chiunque, letteralmente, ma proprio di chiunque, ovvero il Wii. Wii, che si doveva chiamare appunto Nintendo Revolution all'inizio. Sì. Ovvero come dare alla casalinga di Voghera un pad in mano e farla giocare, più o meno, e mantenere comunque un tot di giocatori hardcore in un modo o nell'altro, almeno insomma, diciamo che forse un po' ci hanno provato, diciamo, sulla carta questo. Sulla carta, ecco. Se io non ce l'ho qui e non sono contento, quindi tutto sommato. No, non diciamo tutti. Che si può vivere anche senza, sì. Dipende un po', è una console per un certo tipo di utenza, che purtroppo dimentica completamente un altro tipo di utenza, ovvero quella dei giocatori più hardcore, più legati al single player o al multiplayer competitivo, ecco. Uh-huh. In qualche maniera. Uh-huh. In primis, io mi chiedo, tutti noi abbiamo avuto un Wii? Avete tutti giocato con lui? Cioè, giocato, penso tutti, sì? No. Sì. No? Non hai mai giocato con un Wii, Marco? No, non ho sentito la necessità. No, cioè, neanche provato? No. L'ho guardato, cioè, però l'ho guardato. Che brutta infanzia. Scusa. No, cioè, non hai proprio zero. No. Ho visto Lucina, Simone. Però. Sì, Simone, scusa. Ho visto Giuseppe giocarci, però, quindi. No, non no, il Wii U, il no, Wii. Wii. Proprio quello. No, non è uguale, sono due cose diverse. Per me sono due console diverse. Vabbè, comunque quasi tutti abbiamo avuto il Wii, dai. Ok, diciamo che sì. Luigi, tu? No, Luigi mi pare che l'avesse avuto. Sì, ce l'ho tuttora. Ce l'hai tuttora, bene. Sì. Ma lui c'ha proprio il contratto per nome e cognome tra lui e il fratello. È vero. Io sì, io ce l'ho avuto Day One. Addirittura Day One? Sì. Perché hai deciso di prenderlo Day One? Allora, intervistiamo un malato. Zelda Twilight Princess. Ah, addirittura. Io ricordo, a proposito di Zelda Twilight Princess, se non erro, una esternazione di Luigi sul fatto che tu avessi preferito quello per GameCube. Sì. Poi, sì. Sì, ho la versione per GameCube che tra l'altro è quotata di più, vale di più se la vai a rivendere, tra l'altro. Ma poi è stato sviluppato per Cubo, sì, fondamentalmente il gioco, che poi uscì per trainare le vendite del Wii al lancio, quindi come grandissima esclusiva al lancio per Nintendo Wii, e quindi molti hanno acquistato Wii per questo. Quello è un altro conto, quindi sono controlli adattati, anche tutto il motion controller legato all'utilizzo della spada e altro, non come il Skyward Sword, il seguito, però diciamo già aveva delle feature interessanti. Però per GameCube secondo me è proprio il si può definire il canto del cigno, se vogliamo, più bello che potesse sperare di avere questa console Nintendo. E qui io ce l'ho lì. Bene, una console e che poi, prego, però continuo. Io dico, è anche più bella la confezione, mi piace perché Twilight Princess comunque è ombroso, è oscuro, c'è la parte oscura di Zelda, di Link e tutto quanto, e quindi la custodia è nera fondamentalmente. Mentre su Wii è tutto bianco, dorato, latteo, sì. E quindi sai, c'era anche un sapore diverso secondo me anche nell'approcciare al nuovo capitolo della saga in sé, nel vederlo appena lo sono andato a ritirare, che ero stato l'unico tra l'altro per ruotarlo io per Cubo. Quando lo andai a ritirare mi ricordo che mi disse: oh, una sola copia è arrivata per te, mi disse il tizio di me di GameStop dove lo andai a prendere. Tutti l'hanno preso per Wii, sai, tutti quanti. Ho fatto no, benissimo così. Questa è una parentesi. Io vidi tutte e due perché c'è un pazzo che era più pazzo di me, se l'era preso giapponese, che era uscito un po' prima, e quindi lo vidi da lui su GameCube. No, ma adesso è bello giocare un gioco in giapponese anche con sottotitoli, magari. No, ce l'avrei in inglese almeno. No, mica parlano a Zelda, è solo scritto. So, capito, sottotitoli. Infatti sto dicendo i sottotitoli ce l'avevo almeno in inglese. No, era tutto in giapponese. Che bello. Infatti lui se l'era preso così, scaricato, perché poi c'era la modifica del cube, prima di comprarlo, perché lo voleva vedere, quindi io l'ho visto. Mi sembra che lo vidi da lui. Dal tuo amico, l'ho visto sempre dal tuo amico, dal famoso amico. Da un cugino. Sì, sì, no, ma io non mandavo, aspettavo. Sì, no, io lo aspettavo originale, non me ne fregava niente. Tanto che appunto ho fatto un casino per averlo day one e ce la feci. E quindi niente, alla fine così. Mi sembrava che la differenza non c'era, a parte per i controlli, come dice Luigi, che purtroppo sull'onda dell'entusiasmo di lui, dare le spadate fisicamente era la cosa più fastidiosa che potessi pensare. Confermo, perché l'ho giocato anche io da ex possessore di Wii, l'ho trovato senza dimenticare che poi, essendo un monitor di lancio, quindi usava semplicemente il telecomando standard, cioè quindi senza Wii Motion Plus, no? Quindi era davvero, come invece era per Skyward Sword, e quindi era davvero poco preciso, se vi ricordate. No, vabbè, ma lì era solo per dare l'input, visto che non era proprio pensato, quindi alla fine era solo un grande fastidio. Però poi sul resto del gioco non si può dire niente, insomma. Ma secondo me appunto GameCube console molto molto sottovalutata e sottosfruttata anche quella, come spesso succede alle console della Nintendo. Secondo me bellissimo hardware e anche un po' di titoli interessanti, avrebbe potuto vendere molto di più sinceramente come console ed essere utilizzata meglio, ma insomma anche lì dipende un po' dalla sfortuna. È stato, ma non solo, anche un po' la sfortuna, un po' anche il secondo fallimento, anche se non so se parla proprio di fallimento di Nintendo, insomma, che veniva da un Nintendo 64 che non aveva brillato. Ma lì sai, sono passati un po' alla fase successiva, un po' più next gen tra virgolette, hanno mollato le cartucce finalmente, hanno utilizzato quel formato stranissimo, cos'è, mini DVD, sì, erano, sì. Da 1,8 GB mi sembra, sì. Esatto, quel formato stranissimo, che per carità andava bene, era comoda, esteticamente bellina, ottima per i giapponesi perché era piccola, c'aveva pure il mitico maniglione dietro, esatto. È fantastica per i giochi multiplayer da divano, perché io ricordo partite infinite di Mario Golf Mario Kart, vabbè, quello è un classico, ma anche di Metroid. Metroid Prime. Il capolavoro del cubo. Il capolavoro del cubo, che sembra sembra un insulto, ma è sto capolavoro del cubo. Però sì, esatto, quindi una bella console con dei bei titoli, poco a boh. Secondo me poteva fare di meglio. Non so se sia stato, sì, cioè rispetto al Wii è stato sicuramente un fallimento. Sì. Perché come quantitativo di vendite rispetto al Wii, rispetto a Wii anche la PlayStation 3 è un fallimento. Sì, è solo la PlayStation, cioè, 2 se la batte con Wii. Sì, diciamo esatto, che Wii, confronto, diciamo, infatti, per quanto riguarda le vendite, considerando solo le console Nintendo, è stato proprio l'apice del successo di Nintendo ad ora. Mm-hmm. Quindi potrà solo peggiorare. No, no. Beh, sì, pratica, il problema, sì, è appunto è quello che penso che poi si evincerà anche più avanti alla discussione, è che già Wii U parte svantaggiato, perché è un po' come il nuovo e il vecchio, anzi nuovi e il vecchio Papa, no? Un po' come Ratzinger e l'attuale Papa rispetto a Giovanni Paolo II, no? Cioè il fatto che quando tu vieni già da una macchina precedente che ha spopolato, già parti svantaggiato, no? Sì, sì, no, ma sono quello completamente, sì, d'accordo su questo. Beh, lì dipende, perché scusa, PlayStation ha spopolato, PlayStation 2 è ancora più spopolato. Quindi insomma, è fattibile. Ma devi essere comunque anche bravo, no, tu a presentarla, a progettarla anche. Ora diciamo quando passeremo a parlare del Wii U. Passiamoci, perché tanto siamo, okay, cioè no, nel senso, facciamo un discorso magari più in generale. Allora, rimaniamo su una cosa magari. Sì. Io vi direi questo, nel senso, tornando a noi, prima con Nintendo 64 ci fu uno dei problemi, i problemi cominciarono, i problemi, perché come io poi ho scritto su uno dei punti, in quel momento Nintendo si era voluta mettere al pari dei competitor, cioè a fare la guerra sui numeri del latte, perché era il momento di vede io così. Eh sì, perché era il momento della PlayStation e della Nintendo. Sono... No, era il momento della rivalsa su Sony, perché ricordiamo che PlayStation era nata da uno cioè il successo di PlayStation per Nintendo è stato uno smacco, in quanto tu mi fai una console a 32 bit. Esatto, erano in trattative prima con Sony. No, erano in prima trattative con Sony per la nascita. Penso che io sono ero e sono un possessore di Nintendo 64, quindi dovrebbe essere ancora funionante sempre nella cantina dimensionale, quella dove c'è l'Atari. Prima o poi tirerò fuori, non si sa mai. Dicevi, Simone? Che era e che ha cominciato ad essere un periodo di Nintendo, quello più buio, tra virgolette, che dove le portatili andavano sempre meglio, perché poi tutte le riedizioni, non dimentichiamoci, perché Game Boy poi c'ha avuto i Color, c'ha avuto i Micro. Beh, c'ha avuto, aspetta, però diciamo era anche a mani basse per un paio di motivi, perché già quando dall'era di Nintendo, anzi Game Boy Advance in poi, fondamentalmente ormai Atari con Lynx non ci stava più, Sega con Game Gear neanche, e ancora Sony non aveva pensato di lanciare la PSP, quindi fondamentalmente ma era l'unico player in quel momento comunque, che ovviamente ha consolidato la sua base per quanto riguarda i portatili. Sì, però insomma, dicevo, era un periodo appunto dove da quel punto di vista erano floridi, florido. E invece con Nintendo 64 ha cominciato a voler un po' scendere in campo, diciamo andare contro poi i competitor e buttarsi a fare la guerra tra i numeri, e quindi andava da Silicon Graphics a farsi fare il chip, e quindi 64 bit e tutte queste feature che poi alla fine in sé per sé non portarono a niente di buono, e le cartucce che fu. Io sto ancora aspettando l'espansione. Prima o poi lo so che uscirà. Ma che espansione, scusa? È quello che si deve infilare sotto. Il 64 Disc Doctor. Sì, esatto. Ma in Giappone mi pare che fosse uscito. Sì, in Giappone è uscito. Ma no, però tipo avevo fatto tre giochi. Sì, sì, c'era Doshi the Giant, che nessuno si ricorda che è uscito per quello e non per GameCube. E poi io invece sto ancora ad aspettare l'arrivo in Europa dell'espansione, quella del Famicom, però. Ah, disco, sì, sì. Esatto, dischetti. Perché sai com'è? C'ho questo Zelda su disco che non riesco a farlo partire. Capita. Se provi a mettere il disco nel NES, non va. Capita a molti, come ho detto. E quindi non so, voi potete supporre, cioè, nel senso, non è che penso di essere di una cosa abbastanza sotto gli occhi di tutti, insomma, sì. Che alla fine, però, sui numeri vinse PlayStation, perché andava alla grande. Alla grande, perché poi alla fine era da programmare, era impensabile programmare per le cartucce, poi c'aveva problemi di proprio di grafica con queste fog, queste nebbie infinite che coprivano le magagne. Insomma, diciamo che se non era Mario 64 o Mario Kart o i soliti giochi che fa Nintendo, lì c'era poco da fare, nel senso, c'erano diverse problemi. Anche mi ricordo anche i titoli di calcio, era uno studio a parte che li faceva, quelli International Superstar Soccer, non erano gli stessi da PlayStation, cioè cominciava proprio ad arrancare la console, sia il rapporto con le terze parti, ma poi alla fine anche per i giochi proprio di first party e second party, perché comunque soffrivano quasi tutti questi problemi. Mario 64 no, e infatti era il titolo che vendeva pure la console. Mario Kart andava una spada, ma poi da lì in poi si sono dovuti inventare l'espansione di memoria, si sono dovuti inventare cioè proprio un altro modo di pensare i giochi, che probabilmente all'inizio non una cosa che non avevano calcolato, perché okay. Perché c'erano diverse magagne, ecco. Sì, e poi comunque fino ai tempi del Nintendo 64, comunque Nintendo ci aveva, diciamo, lavorava anche a stretto contatto con alcuni studi che possiamo definire a quei tempi second party, cioè primo tra tutti Rare, no? Che ormai, certo, vabbè, è andata a Microsoft, però prima a quel tempo era proprio studio second party di Nintendo, e praticamente sfornava, se vi ricordo, tutto. Di tutto. Sì. E hanno fatto quasi tutte cose interessanti, sono stati i primi a portare i sparatutto su in prima persona su console, perché GoldenEye. Sì, di cui ho anche velocemente una copia io, bellissimo, un gioco per i tempi era bellissimo, poi portarono Perfect Dark, che fu un'altra, io me lo ricordo molto molto bene, molto buono, e un'altra hit, e poi ci fu un periodo bellissimo secondo me, che è quello dei platform 3D sulla scia di Mario, di Super Mario 3D, e come non ricordarsi Banjo-Kazooie, di cui è una copia pure Bad Fur Day, dai, Conkers, e anche anche Banjo-Tooie, che erano a livello di game design erano bei titoli, a livello di purtroppo di character design si vede che Rare non c'aveva proprio questo grande gusto, secondo me. Però insomma tiravano fuori dei titoli che potevano valere l'acquisto della console, erano i system seller, le killer application, cioè si era creato un ecosistema solido, che, sì. esatto, solido, per quanto però dovevi essere molto appassionato di un certo tipo di gioco, perché poi poi scusate, appunto, di rimando, è quello che in realtà è più o meno lo stesso ecosistema che è sopravvissuto adesso, perché se guardate su Wii U fondamentalmente che generi ci sono in grande quantità, platform bidimensionali e tridimensionali e poco altro fondamentalmente. Sì, ecco, perché poi alla fine probabilmente l'esperienza, cioè la cosa di Mario traina poi un po' tutto il resto, perché poi Mario non solo 3D World, che comunque rimane un platform strano, ma rimane un platform molto meno, io non l'ho giocato, ma da quello che ho visto, diciamo, non ha paragone con Mario Galaxy, che sono in realtà due concept diversi. Esatto, cioè uno è uno sparatutto, è un platform che richiama un po' il 3D Land per 3DS. Esatto. E, e oltre a quello c'è proprio il Super Mario New Super Mario Bros. U, che è paro paro un il Mario 2D, insomma, esatto, il Mario 2D. Quindi insomma ci sta che poi alla fine i follow up escono tutti là, perché poi nelle altre sulle altre macchine non ci stanno. Però diciamo, ecco, Nintendo 64 ebbe poi i suoi momenti, perché poi la prima console con i quattro con i quattro controller attaccabili in contemporanea, anziché laddove la PlayStation non richiedeva laddove la PlayStation non richiedeva, se volevi fare in quattro, i multitap, ricordiamolo. Esatto, la levetta analogica, perché la levetta analogica con quel pad, che a vederlo era una roba brutta, e poi usarlo fu uno dei, secondo me, uno dei più era a livello ergonomico era secondo me resta tuttora uno dei migliori controller. Eh sì, perché a parte il materiale della levetta che ti spaccava il pollice, vabbè, però potevano farlo meglio, dai. Boh, sì, forse probabilmente hai ragione, anche se io non ho mai sofferto troppo sta cosa, però vabbè, io lo vedevo con gli occhi. No, basta farsi morte, venire il callo dopo un po', che non c'è problema. Ecco, forse sarà quello. La piattaforma dove è nato anche Smash Bros, dove è nato Mario Party, Mario Golf, Mario Tennis, cioè tutte le sperimentazioni, quasi tutte sono partite da lì, tutto sommato. O alcune in realtà si sono evolute, perché in realtà per esempio anche, che so, F-Zero oppure Mario Kart sono nati sul Super Nintendo, ma poi in realtà si sono evoluti col passaggio sempre in 3D sul Nintendo 64, ricordiamo. Certo. Poi vabbè, ci fu lo Zelda per antonomasia, perché ancora è imbattuto, anzi, per quello che mi riguarda gli Zelda, perché poi di cui ho una copia anche io, ho diverse copie of Time? Sì, certo. E tu l'hai anche giocato, Ocarina of Time? L'ho anche finito 3-4 volte, certo. Bravo, allora ti stimo un po' di più di questo. e dove anche ci fu... Ti dirò che anche appunto, quello... il pezzo è il mio gioco preferito, se non, se non il primo gioco preferito, tra i primi 5, insomma, quindi... Oh, ecco. Stavi dicendo, Simone, anche Majora's Mask. Che Majora's Mask, secondo me... Quella non ho avuto la possibilità di giocarla, non sono riuscito a trovarlo. Penso che l'avevo cominciato emulato, però poi non era XP, ho dovuto formattare cose brutte. Ma chi l'ha giocato Majora di qua? Io giochicchiato, ma non serio. Brutto è che diciamo, io lo giocai proprio dopo diversi anni, per cui non aveva lo stesso feeling di un gioco, uno Zelda stranissimo. Infatti, Zelda per quello stavo più chiedendo. Strano di tutti. Luigi? Sì, io ce l'ho. Sono gli unici due titoli che ho presente per Nintendo 64, Ocarina of Time e Majora's Mask. Però li ho recuperati quando era già uscito il cubo. Eppure però, scusate, faccio la mia digressione su Majora's Mask, che poi non tanto digressione non è, perché volevo far notare un concetto, per quanto tra virgolette diverso, era comunque, ritornavamo nei tempi in cui Nintendo comunque non si limitava a ripetere sempre le stesse meccaniche con le stesse IP, ma voleva comunque sperimentare, no? Assolutamente, infatti poi fu quello del passaggio a Unuma, se non ricordo male. Esatto. Che infatti gettò proprio l'alone di Dark, di forte Dark, di un'impronta Dark su Zelda, che poi è continuata. L'alone in the Dark. Sì, esatto, che ha continuato un po' su Twilight Princess. Prima di ritornare alla luce pura Skyward Sword, che è proprio vicino al sole così. E quindi insomma, però già lì la situazione non era rosea, tanto che appunto io adesso i numeri non me li ricordo, ma non sono neanche importanti. Diciamo che poi il feeling nostro da videogiocatori, ecco, può servire proprio per far quadro della situazione. E costrinse questa situazione del Nintendo 64 poi a ripensare anche la console successiva, no? Stefano, tu te la ricordi GameCube? GameCube, sì. Ne stavo parlando anche prima. No, non l'ho mai avuto. Innanzitutto fu la prima console che non ebbe come titolo di lancio un gioco di Mario, ma cedette il posto a Luigi, se vi ricordate. Luigi's Mansion. Si rivelò, nonostante questo, un signor gioco. Eh sì. E anzi, era pure una nuova IP. Sì. Tra l'altro, ma continua a essere un bel gioco Luigi's Mansion. Sì, no, è per dire che comunque nonostante cioè anche comunque nel nonostante appunto il successo per esempio del GameCube non è nettamente inferiore a quello del Nintendo 64, però anche col GameCube si continuava a notare questo spirito innovatore di Nintendo, ecco, ma questo infatti, volevo esatto, precisare. Cioè, se osassero un po' di più o sì. meglio se osassero sapendo cosa stanno facendo, no, perché... appunto, perché vuoi dire che tutte queste cioè questo spirito innovatore ormai è completamente sparito, diciamolo, con la Nintendo di oggi fondamentalmente. Allora, sullo spirito innovatore io sono un po' non sono completamente d'accordo, nel senso la nuova console, cioè il Wii U, parlando del Wii U, è abbastanza innovativo su certe cose, ad esempio appunto il pad che è anche uno schermo, la possibilità, cioè quello che potresti fare col Wii U è estremamente innovativo, quello che fai col Wii U è estremamente standard, normale, ecco, perché finisce che alla fine lo utilizzi come tra virgolette, poi sì magari utilizzi qualche feature. Allora in realtà non è solo una questione di controlli comunque, perché abbiamo diciamo fondamentalmente il Wii U tutto, diciamo, ammettiamolo tutti, quando lo guardiamo pensiamo sempre comunque anche alla Wii. Quindi lo guardiamo con l'occhio di chi è che non sta vedendo un nuovo hardware, ma comunque una continuazione di un modello esistito prima, no? Posso dire una cosa su questo, Peppe? Vai. Secondo me non dobbiamo concentrarci sulla macchina, ma sul pad. Cioè Wii U è il gamepad, non è tanto la macchina. Sì, sì. Trascurabilissimo. Ma infatti io voglio... Vai Luigi. No, dico, al contrario delle altre console, invece che il corpo macchina è quello fondamentale e i joypad comunque si somigliano fra loro, comunque la funzione è quella. Nel Wii U invece secondo me la macchina è proprio il pad, la macchina non come motore ma proprio come oggetto d'attenzione. Sì, questo lo condivido, era più che altro la mia non era una questione solo diciamo dal punto di vista tecnico, non volevo snocciolare poi il discorso è meno potente, è più potente quello che è. No, certo, era più che altro un po' diciamo una visione generale, quindi poi volevo anche fare il discorso pure dei servizi, di quello che Nintendo ha imparato o per me dire non ha imparato anche con l'esperienza. Io una cosa sto pensando, quanti di voi associano il proprio Wiimote o comunque il Wiimote in genere al Wii U? Secondo me molti pochi. Sì. Cioè l'idea che sia del Wii U è il gamepad. Sì. E sto pensando proprio a questo, che paradossalmente pur possedendo ancora il Wiimote a casa o addirittura un Wii a casa. Paradossalmente io la Wii l'ho praticamente rivenduta tenendomi però i Wiimote aggiuntivi. E i Wiimote fondamentalmente li uso solo in due occasioni, o quando devo giocare in giochi con multiplayer. Esatto, multiplayer con altri, quindi praticamente io mi tengo il gamepad e i Wiimote li do agli amici, oppure uso il Wiimote quando devo emulare sempre dal Wii U i giochi della Wii. Però diciamo normalmente non è mai la mia periferica che cioè quando appunto accendo la console e prendo il pad, non prendo il Wiimote ma prendo il gamepad, no? Io su questo, se mi permettete un minuto, vi dico una cosa. Infatti facciamo un minuto di raccoglimento tutto per te, dai. No, sempre per ovviamente legato, non è legato esattamente a quello che state parlando, però magari uno spunto di riflessione. Le console attuali di nuova generazione, ma anche quelle precedenti, chi più o chi meno, non fornivano la retrocompatibilità. Sì. Mentre Nintendo, da quando è passata fondamentalmente alla non alle cartucce ma al supporto ottico sul disco, ha sempre fornito la retrocompatibilità. Adesso non so se il Nintendo Wii U legge le dischette del GameCube. No, però diciamo c'è questo passaggio che quindi quando era uscito il Wii leggeva i dischetti del GameCube e quando è uscito il Wii U leggeva quelli della Wii. Sì, questa continuità comunque c'è, diciamo, tra la generazione attuale e la precedente, ecco. Sapete perché ve lo dico? Per un motivo molto semplice: il fatto che Nintendo non voglia trasformarsi in un hub con moltissimi servizi, ma voglia lasciare al centro il videogioco, E anche uno dei motivi, secondo me, per cui va elogiato l'aspetto della retrocompatibilità nell'ottica del videogioco stesso. Io quella della retrocompatibilità lo elogio, per esempio, infatti sono contentissimo di questa scelta di Nintendo, però dice, e sono anche contento il discorso, pure perché non ha esagerato neanche troppo come hanno fatto invece, cioè come hanno deciso invece di puntare, per meglio dire, le concorrenti con, non so, tutta la parte social, no? Però per esempio mi sarei aspettato alcune cose, diciamo, che sono comunque inerenti al gaming, non all'aspetto social, non ad aspetti extra ludici, no? Quindi per esempio, che so, la chat di gruppo quando gioco, che ormai, diciamo, se avete giocato pure su alcuni titoli per Wii U o ogni titolo c'è il suo server, i suoi server dedicati, oppure niente. Oppure, vabbè, anche le altre cose, un po' tipo un sistema di achievement, insomma, cose comunque inerenti appunto all'aspetto prettamente ludico, le avrei potenziati comunque. Detto questo, puoi tornare a Luigi. Sono d'accordo, e ti dico che consideriamo ancora Nintendo come giocattoli. Sì, sì, e quella infatti. E io dico che infatti proprio quello. Io stavo. Me, infatti, volevo arrivare a quello. È l'aspetto che tuttora io sono contento che su questo Nintendo si focalizzi su questo, no? Perché fondamentalmente, e comunque questa cosa di rimando viene, la si guarda tanto nell'hardware quanto nell'approccio a come fanno i giochi, alla qualità che al quality level a cui mirano, alla tipologia anche stessa dei giochi, no? Ma infatti io, il discorso che volevo fare era organico su questo, nel senso, partire dai due momenti più neri. Aiuto. Dai due momenti più neri di Nintendo, per poi arrivare a quelli finali. Luigi, ci stai. Sì, eccomi. Ci stavi facendo il sottofondo perfetto per i momenti neri, no? Esatto. Stavo creando l'altra volta il casino, per ricontrollare se si è alzato. Adesso ti sento perfettamente. Ecco qua, no, adesso è meglio. Si alza praticamente il volume di entrata del microfono da solo. E lo fa Audacity in automatico. Sì. Io lo abbasso a mano. Questa cosa ce l'ha detto Carlo Burigana, che lui è esperto di Audacity. Attenzione, sì, infatti ha il volume che si alza da sé. Proprio. Esatto. Secondo me sai perché lo fa? Perché devi regolarlo prima di cominciare a registrare. No, boh, a me lo fa comunque. Ho provato in ogni modo, non riesco a capire cavarne un ragno dal buco. Ma Simone, vai. No, volevo dire che quello è stato. Quelli sono stati i momenti peggiori di Nintendo, perché non ha seguito il proprio spirito, secondo me, e il proprio credo, ma è andato appresso. Ha voluto sperimentare, ma andando appresso agli altri. E quando gli altri hanno sempre fatto un'altra cosa e tu ti sei sempre distinta, arrivi tardi. Quindi questo, non sono riusciti a lavorare e ad ottenere quello che volevano, lavorando in questa maniera. Non so io esattamente cosa potrebbe essere successo, però questo è, secondo me, il fulcro è questo, perché loro hanno sempre avuto un approccio diverso, che neanche a farlo apposta, poi lo diceva Luigi sull'ultima console, ma probabilmente la stessa cosa si può dire su tutto l'hardware di Nintendo. Cioè l'hardware è predisposto per tirare fuori il gioco o l'idea. Io faccio quel gioco, si può fare così quel gioco, sì, quanto ci costa, quanto non ci costa, vediamo, ma io devo fare quello, non devo fare un'altra cosa. Cioè c'è una visione che è, secondo me, proprio completamente diversa da quella che hanno portato Microsoft e Sony negli ultimi anni, insomma, da quando sono entrate come competitor. Perché anche Sega, secondo me, invece era più simile anche se in maniera diversa, però diciamo che Sonic, per dire che è l'esempio di Sega, eccellenza di Sega e tutto, era, o Sega come va chiamato, e nasceva sulle capacità della console, che era più veloce eccetera eccetera, ma era un titolo che rappresentava. Invece qui si fa, cioè ad oggi si fa l'hardware potentissimo e poi si sfrutta l'hardware per fare altre cose, per impressionare. E quindi io, secondo me sono due filosofie completamente diverse. Sì, infatti Simone, io ci ho sempre visto questo parallelismo tra appunto Nintendo che fa hardware per farci girare su, insomma, giochi di un certo tipo, e ormai Microsoft e Sony che fondamentalmente hanno una macchina, un PC per farci girare tutti i tipi di software, col famoso sempre parallelismo, che ormai diciamo vale un po' meno nel campo dell'informatica, tra Apple, no? E i PC di Microsoft, sì, o di qualunque altra azienda, no? Sì, sì. È fondamentalmente questo. Ci sta, e quindi partendo da questo presupposto si possono intuire tutte le varie scelte che poi ha fatto Nintendo dopo, e che da un certo punto di vista l'hanno resa, almeno della generazione scorsa, vincitrice, perché sì, che se ne possa dire, sui numeri, sulla carta ha vinto Nintendo. Sì, poi sì, che i titoli i più belli sono stati su PS3 o su 360 e quello che volete, poi possiamo parlare di tutto del resto, però su mano, cioè carte alla mano, ha vinto Nintendo, che ha cominciato a guadagnare su ogni console venduta dal day one. Ricordiamo che nessuna delle altre due ha guadagnato fino ai primi 4 anni, se non mi ricordo male, di questa generazione. Altro motivo per il quale secondo me la generazione si è protratta per 7-8 anni, perché prima sono rientrati e dopo si è parlato di nuove console. Ed è anche, tra virgolette, il motivo per cui, nonostante poi tutte le perdite di Wii U e i ricavi del 3DS, che comunque sono minori rispetto al DS, se lo guardiamo a lungo periodo, comunque Nintendo tuttora è un'azienda senza debiti, a differenza di Sony, per esempio. Questo, no? Fino alla prossima console, poi vedremo. No, cioè, Nintendo ha capitale tuttora, è quotata nel listino della borsa di Tokyo. E non ha appunto lo vedremo appunto. Marco, però, diciamo, le stime esatto, dicono che loro possono spendere 250 milioni di, mi pare, milioni di dollari l'anno di perdita possono avere, sì, e possono arrivare al 2045. Quindi diciamo che, se non mi ricordo male, in linea di massima problemi non ne hanno. Mentre invece Sony sta, diciamo, recuperando. A mercoledì non si sa che fine fa Sony. Sta recuperando parte dei debiti solo adesso con il lancio di PS4, e comunque nel frattempo ha già tagliato tutti gli altri settori che non sono quelli, diciamo, del videogioco. Quindi anche il settore, se vi ricordate, dei computer che produceva, ora anche forse pure in parte della televisione. La televisione si sta sviluppando, mi sembra solo sulle high-end, mi sembra però. E insomma, però è questa la discussione che poi si potrà intavolare, nel senso che tutto questo modo di pensare ha dei come ogni cosa, ha dei lati negativi, e uno è quello che si dice tanto delle terze parti. Sì. No, del fatto che perdono il supporto delle terze parti, che è una cosa che si è ripetuta poi tutta la seconda metà del ciclo vitale di Wii è stato pure così. A un certo punto uscivano fondamentalmente solo titoli Nintendo e uno o due titoli third party al mese, quando insomma gli dava culo, no? Ed è la stessa cosa che sta succedendo per Wii U, che era partito pure là snaturando. Con Wii U è anche peggio in realtà, perché ora se specialmente poi fai il confronto tra l'anno scorso e quest'anno, praticamente ormai titoli pure terze parti tra quelli annunciati ma non ancora arrivati, quindi promessi per l'anno precedente ma non ancora approdati quest'anno, quelli che magari poi sono arrivati, però sono arrivati più tardi, eccetera, ce ne sono ancora di meno, se guardi. Ma infatti, sì, sì. E paradossalmente anche first party di Nintendo, cioè l'ultima cosa che è uscita è stato a febbraio, mi pare, fine febbraio, Donkey Kong Tropical Country Tropical Freeze, e poi il vuoto. Ma infatti, cioè, dobbiamo arrivare cos'è, a fine maggio per Mario Kart 8, se non sbaglio. Ma infatti qui sì, anche se loro la sanno lunga, perché tra Smash Bros, che ieri è stato presentato ampiamente su col Direct, sì, e Mario Kart, insomma, sicuramente le cose potrebbero cambiare, ma vabbè. Quello che è successo anche per Wii U dal punto di vista mio è questo. Altro errore: inseguiamo le terze parti che ci siamo persi durante il Wii, quindi inseguiamo gli hardcore, inseguiamo eccetera eccetera, e hanno ritoppato, perché poi alla fine chi ti viene a comprare, non c'era il gioco identificativo di Wii U, cosa che invece, cioè, il Wii è legato a doppia mandata al software che vendeva, e invece Wii U non ce l'ha avuto. Allora, io qui sorge una domanda che vorrei farvi, ma perché poi ne stavamo parlando anche sul gruppo, sui Fighieri ne stavamo parlando poi con Simone, con voi, insomma, con altri, ma una console, la scelta della console viene dalle prime dalle first party o viene dalle terze parti? Quando vuoi comprare la console, Stefano. Per me più che altro viene, vabbè, vai Stefano, vai Stefano. No, prego. Per me fondamentalmente viene dalle esclusive, più che poi siano first party o anche sviluppate le esclusive. Ci sono anche quello ovviamente first party da sì, scusa, intendevo le esclusive io. Sì, sì, comunque, appunto, per me comunque è sempre stato la causa scatenante dell'acquisto di una console, quali titoli posso solo giocare su quella console, fondamentalmente. E devo dire comunque Nintendo con Wii U non era partita proprio malissimo, perché comunque il Mario ce l'avevi, seppure era quello bidimensionale, c'avevi degli esperimenti fatti anche da terze parti come Zombie U o cos'altro c'era, anche lo che era sempre prime parti, anche Nintendo Land non era male, e sfruttava bene comunque il gamepad, ricordiamolo. Sì, però la pill era meno che zero, meno di zero. Sì, perché comunque lo vedevi sempre più che altro, secondo me questo era dovuto al discorso che sempre in quell'ottica di chi è che la pensa sempre come un'evoluzione della Wii, diceva che Nintendo Land evoluzione di Wii Play o Wii Sports, fate un po' voi, no? Sì, ma non... E quindi comunque comunque diciamo si era già stufata comunque del titolo, della raccolta di giochetti per fare vedere le funzionalità delle console, no? Sì. Tant'è che infatti Nintendo Land, se guardi, a parte che non mi pare che con gli ultimi bundle non te lo tirano più dietro, è anche difficile pure da trovare fisico ormai nei negozi, o se lo trovi da cestone. Se avete guardato, quello danno tipo a 15-19 euro. Ah, no, non ci avevo fatto caso. E Stefano? Sì, l'ho preso una settimana fa. Io, infatti, Super Mario Bros. U a 14,90. Luigi ha il volume. Luigi in continuazione come un moscone, proprio. Esatto. Come Mosconi. Pazzesco, comincio a parlare. Sì, si solleva, è normale. Forse dovresti abbassarlo dal coso centrale, dal controller di Windows, forse. O dal controller di Wii, forse. Dal controller di Wii, esatto. Comunque, vabbè, io avevo finito, diciamo, la mia parte, quindi se qualcun altro vuole proseguire su questo. No, dicevo, allora, sì, io sono sempre stato un acquirente di console abbastanza tardivo, quindi nel senso che le prendevo dopo che era passato un po' di tempo, e quindi le ho sempre prese con un parco giochi, diciamo, già abbastanza elevato. Sì. Quindi in realtà il motivo che mi faceva prendere le console, che mi fa prendere le console, è... quali giochi ci sono, quanti giochi ci sono, la possibilità di giocare a tante cose diverse, insomma, tendo a prendere le console a metà del loro ciclo di vita, circa tre quarti, dipende un po' dalla disponibilità economica, decisamente. Sei a questo giro, un amante di console MILF, insomma, un po' a metà. Sì, sì, un misto, non proprio un MILF, ma quasi, tendenti al MILF. E a questo giro volevo prendere la console nuovo, next gen, come next gen in sé, mi ha bloccato la mancanza di la mancanza di titoli che non mi ha spinto a fare il passo nell'immediato, ecco. E questo un po' mi ha mi ha fregato. Non ti è piaciuto, diciamo. Knack? No, diciamo che capolavoro. Knack, ma io Knack non credo. Non credo, anche perché Knack è bello, ma non ci giocherei. Non lo faresti giocare a un tuo nemico. No, esatto. No, ecco, Knack è bello, ma non ci giocherei. No, seriamente, cioè è uno di quei giochi che non mi porta davvero a dire no, ecco, voglio la console next gen perché adesso c'è questo gioco qui che è particolarmente innovativo. Adesso aspetto un po', sono in trattative con alcuni pusher, con alcuni pusher. Esatto, quello con un noto terrorista. Adesso fra un po' c'è il nuovo capitolo di Assassin's Creed, quello col tipo che... Quello in Francia? No, quello ambientato in quella città con tutti i computer, che lui si collega a tutto col telefonino. Assassin's Creed Watch Dog, quello lì. Sì. Assassin's Creed, Watch Dog, vedi, è uno di quei titoli che in realtà mi interessa. Però lo puoi prendere per una qualsiasi altra cosa. Paradossalmente, Watch Dogs, qui lo dico e qui lo nego. Io ho delle brutte vibrazioni per la versione Wii U, che ho l'impressione che verrà cancellata. Ma non era già nei prossimi mesi. No, ancora non è, ancora ci risulta posticipata a data da definire, ma. Io ho l'impressione che verrà cancellata. Tant'è che, infatti, se avete notato, non nel direct di ieri, perché era solo incentrato appunto su Smash Bros. Ma anche in quello precedente, Iwata non ne ha fatto completamente menzione. C'è anche da dire appunto che questa next gen, cioè che la vecchia generazione, non è che faccia proprio schifo tuttora, quindi siamo ancora nella fase in cui i giochi escono su due piattaforme contemporaneamente, e un po' per venire incontro a chi ha deciso di prendere la vecchia generazione adesso, approfittando appunto di prezzi bassi e dei giochi, insomma, di tutto il parco giochi uscito sino ad adesso, che è una cosa, insomma, una mossa abbastanza intelligente se uno ha la voglia di aspettare, ecco, mettiamola così. E nella next gen, per adesso, a cominciare dal Wii U, per il quale, che davvero è una di console che proprio non mi attira, perché insomma, ok, i giochi di Mario, Zelda sono belli, per carità, sono fatti bene, Mario è bello. Mario è bello, però è sempre lo stesso. Cioè, gira e rigira, mi piace, ma. Essere un po' di zombie, un po' di cyborgs. Ma un po' di zombie. No, non è vero. Sangue, anche gli zombie. No, ma secondo me, Stefano, è che sei tu ad essere cambiato. Perché comunque, cioè, ai tempi quando compravi il Nintendo 64 o anche il Super Nintendo, erano gli stessi giochi più o meno cioè le stesse IP comunque che c'erano pure sul NES, no? Quindi ma è un approccio erano diverso. Talmente migliorate che sembrava cioè Mario 64 è stato il primo platform in 3D. Sì, quello che ha dato il via, che ha dato il là, che ha detto, cioè, è un'altra. No, ma anche se mi metti Mario, il primo Mario, Mario World, Super Mario World, cioè, anche se è sempre la stessa cosa, ci sono delle differenze enormi. Adesso tra il Wii e il Wii U, come Mario, non vedo questa differenza esagerata. Anche perché sta uscendo, pare che stiano facendo il Mario, quello, il Mario, quello 2D Mario, cioè, no, oltre 2D a 3D World, pare che ne stia la nuova evoluzione. Sì. Ah, c'è un nuovo Mario completamente diverso. Pare che sia in lavorazione a cosa, a famiglia. Sarebbe un'ottima mossa, però hanno detto, sì. Sarebbe un'ottima mossa, però anche lì li frega. Cioè, io non prendo le console per un solo gioco. Hai visto comunque, quindi... secondo me sei cambiato tu però. No, comunque, non lo so, comunque... ma io comunque continuo a prendere le console, nel senso, la PlayStation è la PlayStation, gira e rigira, però continuo a prenderla. Scusami, il motivo allora appunto è in quello che diceva prima Luigi, cioè perché tu comunque percepisci, secondo me, Wii U come un miglioramento esatto del un Wii 2, mentre per te appunto tra PlayStation 1 e PlayStation 2, tra PlayStation 2 e PlayStation 3, tra PlayStation 3 e PlayStation 4 ci sono dei salti generazionali che per te sì, tangibili, per certe cose sì, insomma adesso non l'ho visto, ma quando ho provato TIFF questa tua percezione è quella che diciamo secondo me è molto diffusa nell'attuale audience, no? di consumatori. Sì ma io non capisco una cosa, se la Nintendo sta andando male perché tutti hanno questa percezione, quella che ho io, e quindi loro non si sbattono per non lo so, hanno un po' tirato i remi in barca e dicono va bene, usciremo poi con qualche cosa di nuovamente innovativo, stile il Game Boy a suo tempo, stile il DS, stile il Wii quando è uscito, oppure se non lo so, se vogliono continuare a insistere sul Wii U e in futuro ci sarà un motivo che mi porterà ad acquistarlo. Posso dire una cosa? Sì, vai. Sì. Secondo me la percezione che si ha di Wii U che non può paragonarsi a quella di Wii. Con Nintendo Wii tutti sapevano, chi ha comprato fondamentalmente Wii, noi siamo pochissimi rispetto alla maggior parte della gente social che l'ha comprato per un motivo molto più di affezione ludica, semplice, di famiglia, domestica, da regalare ai bambini, bla bla bla. Noi siamo gli hardcore gamers, ma chi ha venduto davvero il Wii è stato proprio il Wiimote. Non lo si comprende il Wii U invece, cioè la gente non comprende l'utilità di avere un gamepad a casa, secondo me, proprio come forma, come ergonomia, posabilità, come oggetto da tenere all'esterno. Cos'è un tablet? Sì, ci giochi sullo schermo, ma i miei figli giocano anche sul cellulare. Perché devono giocare sullo schermo di sto coso, sto gamepad? Perché devo giocare sullo schermo del gamepad in casa? Perché comunque non me lo posso, portare fuori. Invece l'hanno venduta male perché, scusa se ti interrompo Luigi, ma l'hanno venduta male perché la cosa più bella, io l'ho vissuto, avere la possibilità di switchare e rimanere però in compagnia di qualcuno e farsi magari continuare il gioco, fare il gioco più leggero, da scacciapensiero, che però non è un gioco da iPhone o comunque da smartphone, ma un gioco vero, è una sensazione, cioè una roba molto bella, secondo me. Io l'ho trovato. Ma tu lo puoi dire questo, tu, ti ripeto, tu come hardcore gamer lo comprendi, ma secondo me le famiglie non vedono adesso il gioco, eccolo, Super Mario, uno sta a vedere la televisione e me lo gioco qui sopra. Mentre la percezione che avevano col Wii, il Wiimote, che non ce l'aveva nessuno. Che è bello poter giocare a tennis o a golf, muovendomi, facendo ginnastica, facendo questi aspetti qua. La vedevano oltre l'aspetto hardcore che sappiamo noi di videogioco, ma come un attrezzo da tenere a casa e di utilità. Ma anche per un altro motivo, secondo me, pure per dare più a valorare di più la tua tesi, Luigi, c'è pure il discorso che mentre il Wiimote era più che altro uno strumento, appunto era uno strumento, il Wiimote di gruppo, comunitario, perché comunque era sempre la famiglia, come vedevamo anche nelle pubblicità, quella multietnica che giocava tutti assieme, no? Con la Nintendo Wii U, con la Nintendo Wii, ciascuno con in mano il proprio Wiimote, mentre invece qua è appunto lo scopo è diametralmente opposto, è giocare quando la televisione è occupata, ma per i cazzi miei, scusate il termine, proprio perché tant'è che infatti a maggior riprova su Wii U ci sono pochissimi tentativi di giochi che funzionano sul gamepad, che però richiedono l'uso di più di un fruitore in contemporanea, e quei pochi che ci sono, vedi anche che so pure Wario, l'ultimo della serie di Wario, sono fallimentari. Ma e quindi, cioè nel senso, loro mi sembra che puntino comunque a un giocatore single player tendenzialmente legato al loro brand, tendenzialmente legato ai loro, alle loro IP, sì, ai loro personaggi. Nel frattempo sei invecchiato, quindi stai da solo, esatto, non male, che, gioco esatto. Con questo. Ma è una percezione no, ma, diversa appunto ecco, ma a quella del forse può essere anche ecco, il, ma... il fatto che rispetto a quando è uscito Wii ci sono più dispositivi portatili che magari gli fanno concorrenza. Certo, questo pure, tant'è che infatti in realtà in parte questo ha anche causato pure un ovviamente molto più ridotto declino del 3DS fondamentalmente rispetto al DS, no? Ok, ma gira e rigira, sì. Perché comunque non convince gli hardcore gamer il Wii U? A me convince proprio tutto, per cui... No, non convince ma nessuno. Problema, ma ci sono, secondo me si sono accavallati dei problemi su Wii U. Mm-hmm. E... però cioè, andando il fatto oltretutto è che come penso che voglia dire anche Simone, non è che convince, cioè, sono tutta una serie di fattori che oltretutto oltre a non convincere gli hardcore gamer non convincono neanche gli stessi soprattutto publisher più che sviluppatori, no? Ma ecco, sì, ma un po' quello, ma perché? Anche perché ragazzi penso gli che... hardcore gamer sono diventati fondamentalmente un branco di cretini per quello che mi riguarda perché sì, perché l'hardcore gamer sta dicendo a me ma sì, non vedo ma nessuno qua attorno, quindi stai dicendo perché poi alla fine cioè, l'80% di quello che gioca l'hardcore gamer gioca a giochi che un bambino può giocare, un bambino può giocare un 65 gioca a tre cose FPS esatto. Sportivi e giochi scusate lo ripeto FPS sportivi e giochi di guida, ditemi di queste tre categorie quanti titoli ne vedete di queste tre categorie appartenenti a queste tre categorie su Wii U. No, ecco. Non ci stanno, ma non è solo questo, esatto. Anche perché poi uno che si gioca a Skyrim si sente hardcore gamer, si sente il giocatore vero. Mm-hmm. Cioè, questo è il problema. Quando lì è uno che cammina, parli con due, vai... cioè, è proprio una concezione ad oggi, si è spostata proprio la concezione del gioco. A prescindere da fare il paragone con Nintendo, perché poi no, io poi sarei di parte, ma è proprio un modo di interpretare il videogioco in una certa maniera. Sì. Che è esclusivamente dato da tutto un impianto, dal trailer, dal seguire il gioco dall'inizio, dall'annuncio iniziale, l'hype, ci sono tutte delle tappe che come bravi cagnolini seguiamo tutti quanti, e quindi questo che in Nintendo non compare perché le terze parti non ci sta, non l'ha abbandonato quasi perché non ha i risultati che vuole. Immaginati uno spot cinematografico con Mario, però, insomma, ce n'è la stessa cosa. Però scusami Simone, paradossalmente ma perché Nintendo... io devo fare spot cinematografico con Mario, a parte che se esatto. Guardi spot di Mario Kart sì, perché esatto. Poi giusto tu cioè su questo fai le battute, a me mi sta bene, però tanta gente come magari tu l'hai visti, però c'è tanta gente che manco l'ha visti e non lo sa. Se tu guardi un trailer di Mario non hai niente da invidiare esatto. a un cartone della Pixar. Sì, e infatti Simone, qual è il discorso? Che non per tornare sempre su quello che avevo già detto prima, però c'è sempre questo parallelismo che ritorna con Apple. I fanboy Nintendo seguono tutte le cose che fa Nintendo, che poi fondamentalmente i Direct non sono che come diciamo delle mini presentazioni, come quando c'era la buonanima di Steve Jobs per Apple, no? Mm-hmm. Io ho sempre visto questo paragone. Chi è che si va a vedere come è stato stamattina a mezzanotte, chi è che rimane alzato per guardarsi quei 40 minuti che poi fondamentalmente erano notizie che comunque più tardi ti saresti potuto leggere su qualunque esatto. Sì, ma questo c'è in tutti, è fatto gli per eventi, loro, specialmente... certo. È fatto così, ma sì, ma poi fanno, è normale. C'è un po' in tutti gli eventi, però il discorso è proprio questo, che tu ecco, io ho finito la frase e Marco ha detto è un cartone animato. Sì. È proprio questa interpretazione che poi alla fine dà il senso di come viene percepito il prodotto di Nintendo, perché poi se io a Marco ti dico Marco gioca a Metroid e ti renderei conto, Metroid Prime Corruption e Echoes, che magna in testa a tre quarti dell'avventura, da Amnesia, da tutte queste cose, sì, devi scappare, sì, Simone, devi sparare tutto, è sì, un ma gioco ma coi contro coglioni, ma sì, sì. È uno sparatutto in prima persona, sì, Metroid, sì. È uno sparatutto in prima persona, in terza persona. È diventato persona. Uno sparatutto, sì, l'ultima, l'ultima serie, quella però, con ADRM, eccetera. Però non è perfetto, però non ci gioca. No, ADRM, scusa. No, no, ma dimenticati il concetto di FPS standard. Esatto, perché poi lo devono ripensare, lo fanno ripensare in una maniera dove nessuno sa fare uno sparatutto così, nessuno lo sa fare, lo fanno loro perché c'è l'avventura in prima persona, c'è tutto quello che c'è stato 10 anni dopo con Skyrim e con tutto. Quindi, però, giustamente nel tuo immaginario ci sta Mario Kart, ci sta il platform, e questo è il modo per il quale la maniera in cui l'80% di determinati giocatori, che si dicono tanto giocatori, interpretano la roba di Nintendo, a prescindere. Ma è colpa dei giocatori o colpa da Nintendo? No, non c'è una colpa. No, per me non c'è una colpa. La colpa comunque è ultimamente è diventata dei giocatori, perché i giocatori sono cambiati parecchio, e quelli che sono diventati giocatori, la maggior parte non hanno idea di quello che stanno dicendo, che stanno facendo, che stanno scrivendo, eccetera, eccetera. Non che io ce l'abbia, dico, però in generale tanta gente si pone proprio in maniera sbagliata. E poi non c'è una colpa, nel senso, c'è una responsabilità. Se Nintendo si vuole affossare da sola, non c'è una cosa che... Se Nintendo non c'ha piglio, significa che comunque non fa qualcosa. Cioè, se pensi che i giocatori non sono informati, informali. Se comunque se vedi che stai perdendo comunque qualche cosa, cerca di recuperarlo. Il problema di Nintendo è che se ne fotte, cioè sta bene così. Ma a parte che probabilmente sta bene così, ma poi oggi mentre finivo di leggere questo libro, che è Giocare per vincere, però scritto con Wii, che è uno di Daniel Sloan, cioè ci sono tante virgolettati. Uno dei virgolettati che diede, mi pare, Takeda, che fu l'ingegnere hardware di Wii, disse: è inutile che andiamo a seguire i numeri, perché una persona, quando tu vai a concorrere su quello, se tu a uno gli dai 1, la volta dopo vorrà 3, la volta dopo vorrà 5, e cioè è un gioco, perché quello che vuoi, perché quando loro lo stavano concependo, la gente dice: mettigli quello, e mettigli quello, e mettigli quell'altro, e mettici sopra, cioè il team. E a un certo punto lui ha dovuto fare un bilancio delle cose, le feature da mettere, le feature da togliere, e poi creare un qualche cosa. E con Wii ha avuto ragione lui alla fine. A livello sempre sulla carta, probabilmente con Wii U questo discorso è stato fatto in maniera diversa, ma è questo più che altro ho l'impressione che con Wii U le cose che avevamo scartato le hanno poi reinserite con Wii U, diciamo, no? Si può essere, però il discorso è proprio questo, quello che dico. Quindi quando tu campi sul numero e campi sul quanta RAM, campi solo su quello, perché poi il resto sono gli stessi identici motori per tutte e due, gli stessi identici titoli, eccetera eccetera, come fai? Osculi o riesci ad andare avanti? Perché non mi dici che tra PlayStation 4 e Xbox One ci sia una differenza, tanto che Xbox One si sparsa la voce che è poco meno potente. Esatto, è che quello è si sparsa che è leggermente meno potente, che sta arrancando e tutto quanto, eccetera eccetera eccetera. Xbox One in teoria sarebbe perdendo terreno, anche in pratica, e andava avanti una console che non c'ha giochi, perché la gente vuole l'aggeggio da mettersi dentro la stanza, illuminato, si fa si flasha con i colori dei pad che hanno i colori, e hanno fatto, perché poi adesso che voi sapete quanta discorso, gente c'è, non ci posso arrivare, allora mi fermo su sta soglia, cioè non è in che senso? Quel discorso che dici tu, non badare ai numeri, perché poi la gente si aspetterà sempre di più la volta successiva, non è pure non poterglielo dare questa cosa alla gente, comunque, e fermarti al livello base, cioè se non posso arrivare a quei livelli, non ci voglio arrivare, perché magari ma tu parli di Nintendo? Cosa. Sì. Ma Nintendo se volesse farlo farebbe un hardware 7 volte più potente, perché c'è l'unica che c'ha i soldi da investire in risorse e sviluppo. Cioè la cosa paradossale è l'unica che è in questa situazione, è che l'unica che c'ha i soldi cash così per tirarla fuori. Che ci ha mai investito prima. Ma chi ci ha investito? Ma in una certa maniera. Lo so, però evidentemente ci ha visto più lungo, quello so di sulla generazione precedente, su questa non lo so perché a me spaventano. Secondo me loro c'hanno l'asso, c'hanno qualcosa in produzione che sanno che... Io sono convinto che anche Mario Kart può fare un po' la differenza. Ovviamente salvare la console non lo so, però sicuramente può fare un po' la differenza. Il problema è come ci si approccia a questi prodotti, cioè quello che dico io. Poi, se vogliamo parlare di qualche problema, cioè è proprio un'interpretazione che è proprio personale loro, nel senso, tutti perché dovrebbero fare le IP nuove. Ok, facciamo le IP, parliamo di questo, vogliamo parlare di l'IP nuova. Non c'è bisogno di l'IP nuova, perché Mario Galaxy, se tu ci metti un altro pupazzo, è lo stesso, un gioco della Madonna. Ma cioè, poi oltretutto neanche tutte le ancora prima di pensare alle IP nuove, ma che prendessero anche alcune vecchie che non hanno, diciamo, più usato di recente, e facessero e sfruttassero anche quelle. Cioè parlo sempre per il discorso di F-Zero o anche un nuovo Star Fox, magari. No? Sì, ma io sono d'accordo su questo, però cioè, sappiamo, cioè, l'importante è capire che poi i giochi nuovi ci sta, li fanno loro, ma non li fanno con non lo chiamano ecco, non fanno Watch Dogs che poi è Assassin's Creed, sì. Cioè fai un Assassin's Creed però rivoluzionando il mondo Assassin's Creed, ma non sono in grado, non è in grado, perché è talmente sviluppato, è talmente avvinghiato Ubisoft su quel brand che fa solo quello e può fare solo cose simili a quelle. Poi vediamo, perché, e non solo, fa pure delle figure di merda, perché poi fa uscire i giochi che Watch Dogs ha rivoluzionato le 3 di 2 anni fa, e adesso è praticamente sembra Shenmue per Saturn, se vi ricordate com'era. Shenmue è molto meglio di Watch Dogs. No, quello per Saturn, meglio, non so se ti ricordi, che ci girano dei filmati, perché prima di andare su Drink era una cosa sottile. Però stavo confondendo quello per Drink. No, hai ragione. Però questo per è questo. Sì, ma alla fine aspettano un altro po', probabilmente se lo rinviano un'altra volta sembrerà che forse Zorro per la Atari 800. Esattamente. No, ecco, ma alla fine la Nintendo cosa è che ha tirato fuori dei gioco, cioè di nuove IP? Adesso U, Zombie U, togli Zombie U. No, a parte che Zombie U è di Ubisoft. Nintendo, scusa, no, ma dico, no, in generale, anche di terze parti. No, nuove IP, non te lo so dire. Ti tirerei fuori, che so, sempre di terze parti patrocinate da Nintendo, Wonderful 101 di Platinum. Wonderful, beh, okay, anche quello X. Quello è un buon. O anche X, però diciamo sempre patrocinato da Nintendo per Monolith Software. Ma quello va bene, non c'è problema che sia di terze parti, sì. Anzi, tanto meglio. Anche se di Nintendo, sì, va benissimo lo stesso, non è un problema. Il punto è che alla fine quanta roba esce che ti porta a comprarla questa benedetta simpatica. Sì, scusami, aspetta, allo stato attuale l'unica che forse c'ha questo discorso un pochino è Xbox One, che è una di la seconda più sfrattata, esatto. e quella che vende di più è quella che non è una scatola nera con i giochi che c'ha Resogun, che a quanto pare sia veramente qualche cosa, e per il resto c'ha Second Son, che per me è inguardabile. Poi non lo so di che vogliamo. Poi io non sono informato su tutta la lineup d'uscita di PlayStation 4, ma a me non mi pare che, quanti sono? 10 giochi, Luigi, tu che sei più dentro su PlayStation 4, quanti ce ne stanno scatolati? Una quindicina, se però consideriamo pure, diciamo, tutti multipiatta e anche tutte le riedizioni tipo Tomb Raider definitivamente. No, io magari toglierei le riedizioni, esatto, metterei solo, sì, cioè, vabbè, quanti di noi ci stanno? Tanto quello, quanti sono? Una ventina. Eh sì, una quindicina, sì. Una quindicina. Ecco, allora c'è, cioè, sì, di cui la metà sono multigenerazione. Sì, sì, anche multipiattaforme. Multigenerazione oppure multipiattaforma, allora, comunque per la generazione, ecco, attuale. Allora lì ce ne stanno di 20, però c'è One and One e non c'ha nessuno, X non c'ha nessuno, Mario non c'ha nessuno. Se devo scegliere oggi a comprare una console nuova, non posso pensarlo mai di comprarmi prima per PlayStation 4 o Xbox One. Preferisco magari comprare PlayStation 3. Ma sai cosa ci vedo? Quello io adesso parlo solo di next gen. Io sinceramente ci vedo in PlayStation 4, ad esempio, una console in potenza, nel senso che adesso forse l'acquisto un po' prematuro, non c'è una vasta scelta, ma E anche gli stessi giochi che vengono sbandierati, appunto, anche come ha detto pure Infamous, eccetera, comunque in realtà non sono questo splendore. Ma come del resto capita, insomma, in qualunque generazione. Esatto, io penso che la ciccia la cominceremo a vedere fra un anno e mezzo. Però quello che tu vuoi dire, Stefano, è che questa potenza, questa scintilla, non gliela vedi in Wii U. No, esatto, io in potenza non vedo, purtroppo. Mm-hmm. Bene Wii U, in potenza vedo meglio One. Però secondo One. Me, cioè, diciamo, che fanno i giochi a risoluzioni più basse, PlayStation 4 ce la fa di più con i frame rate più bassi. Wii U dopo un anno fa Mario Kart che muove di tutto, 60 frame dritto, perché poi altra cosa, quelle sono macchine, quelli sono giochi pensati su, cioè sono pensati i giochi e le macchine sono macchine che li devono far girare, quindi non ci sta l'accontentarsi come esatto. su One che va a 792p Titanfall ma c'è anche da dire che c'è da più tempo Wii U. Bravo. E hanno anche un tipo di scelte proprio c'è anche da dire che stiamo parlando appunto di Nintendo che è particolarmente anche perfezionista dal punto di vista della qualità. Bravo, perché loro fanno il gioco, non fanno la console. Perché scusami, torno, è un po' come anche la mania di perfezionismo nei confronti di fidelizzazione nei confronti del cliente, sempre come parallelismo che aveva Apple, no? Esatto, no, ma io su queste cose qui sono sicuramente cose lodevoli da parte di Nintendo, però io non davvero non ci vedo e ripeto purtroppo, perché io non è che odio Nintendo, anzi ho preso un Wii, però purtroppo non rientrano nel magnetismo. Esatto, cioè in futuro secondo me non riusciranno ad andare oltre, mentre ecco magari adesso la Nintendo risulta su certe cose grafiche avanzata, appunto gli esempi che ha fatto adesso Simone. Le altre console devono ancora raggiungerla, ma non ci pensano, capito? Non ci si pensa, pensa a sacrificare qualcosa per qualcos'altro, come fu per Call of Duty, quello che uscì Black Ops 2 Ghost. Che su One hanno abbassato le risoluzioni, cioè ma è per adesso secondo me hanno è una cosa momentanea, perché in futuro quando tutto sarà pianato sul livello Nintendo tra virgolette, la Nintendo sarà sempre uguale, mentre invece le altre avranno superato un gap, quindi ci si renderà conto, cioè si potrà utilizzare la forza brutta della console, mentre invece magari quella di Nintendo resterà più stabile e sempre qualitativamente altissima, ma non si noterà magari il passaggio. Quindi voi volete solo, cioè è pure il punto di vista quindi è proprio il punto di vista che è stato spostato, cioè io preferisco vedere una cosa fotorealistica, poi che io sto a giocare a Rise che spingi i tasti a caso. Oggi tra l'altro ci ho giocato un pochino, non so, potuto vedere, sto spingendo i tasti a caso, però c'è lo scudo che c'ha il bump mapping della luce e c'ha ti dico leva, dice tu vuoi quello. E se vuoi l'altro. Cioè, evidentemente se vendono così è perché vendono quello. Le console alla fine in linea di massima, i giochi che tirano per le console cosa sono? Call of Duty, Assassin's Creed, FIFA, cioè non è che sono titoli con una trama. Ok, Assassin's Creed forse ancora la trama, io non parlo della trama, io parlo di un gioco che c'ha un gameplay, e infatti io un po' giustifico quello che dici, perché poi specialmente con Nintendo, voglio dire, la trama è sempre un po' secondaria, la trama, ecco, magari loro deficitano quello che conta è proprio il gameplay, no? Sono d'accordo, ma ripeto, io non la penso da questo punto di vista, la penso come voi, però in ogni caso per quella che è stata quella che è stata la mia esperienza con Wii, ad esempio, è la mia esperienza che non c'è stata con Wii U, perché non mi sono messo proprio, non, per adesso non mi passa neanche per l'antica mia cervello di comprarlo, ma non perché giudico una brutta console. Però scusami, console anche Stefano, non mi prende. Scusami, a questo punto te lo vorrei chiedere, però se l'esperienza, facendo un paragone tra l'esperienza con Wii e in parallelo avrei giocato con 360, con PS3, Sì, PSP, 360, anche, diciamo anche diciamo, lungo tutto il ciclo vitale di quella che era la old gen, comunque Wii si è sempre mantenuta diversa, tra virgolette, un'esperienza completamente, cioè su un altro piano rispetto a quella delle altre delle IP su altre macchine, no? Ma a quello sicuramente, io mi ricordo Red Steel 2, che era un gioco fantastico, cioè che anche quello forse con i suoi difetti, per carità, però è perché secondo te a questo punto non può essere la stessa cosa nel lungo periodo tra Wii U e PS4/X1? Perché secondo me si verificherà un po', forse, quello che si è verificato anche con Wii, cioè una quantità di giochi per un certo tipo di pubblico, quindi per noi, tra virgolette, troppo limitata, troppo risicata rispetto a quella che invece si può avere con le altre console, che è un po' anche quello che mi ha fatto passare da Wii a 360, perché io dopo che ho giocato tutto quello che era uscito per Wii praticamente di hardcore e dopo aver provato anche quello di anche i casual, mi sono detto ma no, io vorrei qualcosa di più profondo, vorrei un insomma qualcosa di, non dico banalmente il AAA, ma in generale anche gli indie, per dire, di Xbox 360, li giudico più interessanti rispetto alla maggior parte degli indie che c'erano su Wii, che ci sono su Wii per il momento, tutto l'insieme. Teoricamente per il momento anche di Wii U, visto che ne escono anche così pochi, è quello, cioè a me dispiace, ripeto, sarei dato le lodi del GameCube sino a due minuti fa, e vorrei che facessero una cosa, cioè che pensassero un po' a raggiungere da un certo punto di vista gli altri, mantenendo la loro innovazione in un modo o nell'altro. Purtroppo almeno per come io la vedo, facendo diciamo una mia profezia di stile Cassandra, io vedo comunque il Wii U sempre che, pure per questa generazione, fin tanto che appunto Nintendo non annuncerà qualcos'altro, come console di supporto alle altre due. Sì, esatto. Io non posso permettermi due console adesso, quindi punterò a quella, a PlayStation 4. Non so, Luigi, qualcun altro che vuole pure dire la sua? Beh, Luigi, tra l'altro, Luigi e Simone penso che hanno tutti due un Wii U, se non ricordo male. Pure loro ce l'hanno. Sì. Diciamo, voi cosa? Pure voi, rispetto anche a un anno fa, dal primo gennaio di quest'anno, quante volte avete acceso Wii U in favore anche delle nuove console, tra virgolette, o delle vecchie, comunque, insomma, dei titoli PS3? Molte di meno? Sì, beh, io sì, molte poche volte ho acceso il Wii U. Diciamo che le console di Nintendo mi fanno comodo per il fatto che se voglio possedere la console non devo possedere tantissimi giochi, ma posso possedere poco e il top, se vogliamo. Quindi ecco praticamente che Nintendo Wii avrò forse una quindicina di titoli in totale nella mia ludoteca. Nintendo GameCube altrettanto. E stessa cosa sarà Wii U. Però questa è la mia filosofia, ovviamente, nel dire gioco poco ma gioco bene. Gioco poco ma io. Che però comunque è compatibile sempre col discorso che dicevamo con Stefano, che fondamentalmente relega Wii U a console di secondaria di supporto. Esatto, è quello il problema. Cioè, se devo scegliere tra una console che ha 15 giochi da avere assolutamente e una che ne ha 50, è più probabile che, facendo un discorso egoistico e quantitativo così, sceglierò quella da 50. E poi chiaramente se mi dici, cioè 50 ovviamente è titoli belli, non parlo di non lo so, della Barbie gira la moda, ecco, anzi forse quello, Barbie avventura a cavallo, quello in effetti un po' potrebbe portarmi a prendere qualche console Nintendo in più. Però ad esempio, al contrario, per le portatili mi sembra che, io da possessore di PS Vita, mi sembra che i giochi che mi attirano di più siano per 3DS, per assurdo, nonostante abbia appena l'ho presa tre mesi fa forse la PS Vita, però anche lì voglio un po' stare a vedere cosa combinerà la Sony, se riescono a non fare lo stesso errore della PSP o se punteranno, potrebbero anche rifare un peggiore, chi lo sa, potrebbero anche fare un peggiore, sì, esatto. potrebbero non mettere Barbie Aventura a cavallo su PS Vita, farlo molti facendo così crollare le vendite per PS Vita. Esatto. Allora gli scriverò un'email incazzato alla Sony dicendo: io vi volevo bene, io vi amavo e voi tu Simone? Io ce l'ho Wii U. Sì sì, no, io Wii U ce l'ho e... cioè rispetto anche diciamo quante volte l'hai accesa quest'anno rispetto anche a non so PS3 qualche altra console. Io adesso ho PS3 sì. Wii U le ho accese pari, anzi forse vabbè, ma io forse ho acceso più Wii U perché mi sono fatto, ma semplicemente perché con PlayStation 3 ho smesso, l'ultimo gioco che ho giocato è stato completo, tutto è stato Metal Gear Rising, uh-huh. E quindi era Revengeance e quindi era Capodanno, diciamo dicembre. Sì. E poi ho preso Rayman Legend, come si chiama, Legend l'ultimo, quello per sì. Wii U. Sì, sì, Legend. E quindi ho giocato più a Rayman Legend che non al resto. Poi in questo periodo sto giocando di meno, purtroppo, però però paradossalmente ho acceso più quello. Perché e adesso, adesso da quando sto sei diventato uno spacciatore. Uno spacciatore, esatto, dei giochi. Esatto. No, a me per esempio social necrozio. Io l'ho accesa poche volte quest'anno, fondamentalmente per giocare a Donkey Kong Country. E non ho ancora finito Legends, anche se tendo a giocarci quando sono con amici. E il problema è sempre il discorso che pure ecco la varietà a me da l'ho accesa di meno rispetto appunto anche a PS3, senza voler per forza tirare in ballo PS4, proprio per il discorso che comunque a me dà fastidio giocarmi di seguito due tre platform, perché fondamentalmente è quasi questa l'ecosistema attuale di Wii U. Quindi per spezzare ho bisogno comunque di passare a un'altra console al momento. Poi ovviamente quando ci sarà Mario Kart, quando ci sarà Smash Bros, quello che vuoi, il nuovo Zelda eccetera, allora o X o quello che è, allora là sì, avremo più varietà. Bene, quindi io direi Luigi, tu volevi narrarci qualcosa, leggo qua nella scaletta che c'erano degli appunti per quanto riguardava. Sì, vediamo di farlo senza il ronzio. Nintendo. Se ci riesci, esatto. Sì, se sì, vai ronzitante. Ronzinante, anzi. Come faccio a tenerlo abbassato? Mi sono abbasso al massimo così. Vediamo. È che no, la mia paura è che poi non ti registri l'audio su Audacity, e questo potrebbe arrecare un danno a mia persona. E questo è male, esatto. Ma questo è male. Per somma gioia di Simone, Simone l'altro, quello che non stiamo ascoltando. Ma è strano che... Sì, ok. No, parla, poi nel caso ti interrompiamo se inizi a frizzare. Facciamo così, siccome non posso leggere quello che ho scritto, perché altrimenti si alza il volume automatico del volume d'ingresso, lo leggi tu? Tipo. Ah, ok. Senza ronzio, se poi lo aggiungiamo dopo pasticcio. Io posso fare un po' di se volete. Come zombie, oddio, Zombie Diaries, era bellissimo, con gli zombie con il ronzio della mosca incorporato, era bellissimo. Esatto. Bene, allora, quindi dagli appunti di Luigi Marrone, sembra la lettera la lettera aperta. Lettera... Gli appunti di Luigi Marrone. La copertina di Super Mario 3D World, un insieme di elementi emblematici da analizzare per studiare la strategia vincente di Nintendo. Il gusto, il sapore, il colore al servizio di un'idea infantile, cartunesca, di videogioco. Lo stesso gamepad vi si sposa alla perfezione. Tenuto fra le mani, la cicciosa plasticosità ergonomica del gamepad impugnato si sposa coi suoni, i colori e mondi zuccherosi e pieni di Super Mario 3D World. A partire dalla sua copertina. Sembra di giocare a un Kinder Bueno mischiato a nuvole che incontrano i bianchi e i rossi degli incarti Kinder, luccicanti e fruscianti. Ecco cos'è Super Mario, un prodotto creato a tavolino dalla Ferrero. La copertina del gioco è un Kinder Sorpresa con dentro del cioccolato videoludico, il cui blu turchese regala un'idea di cioccolatoso sapore. Il giallo quasi arancio, sorridente della tuta di Mario Gatto, le zampe ficcate in bianchi guanti di spugnosa bambagia, un invito fatto di vaporoso zucchero filato da gustare e squagliare in bocca. In questa copertina c'è Chicco, Pranatal e tutto l'immaginario morbidoso dell'universo della puericultura dei neonati e l'infanzia. È sufficiente analizzare la cover di un gioco di Mario per avanzare uno studio cognitivo sulla percezione pedagogica, sulle memorie impressionistiche d'infanzia del giocatore. Funghi gommosi di caucciù, zuccheri, pan pepato, scivoli, tubi verdi, canali trasparenti, lucidissimi e aspiranti, campanellini, vortici della calecca, Walt Disney e Willy Wonka. Lo si può mangiare sinteticamente un Super Mario. Sinesteticamente. Sinesteticamente un Super Mario. Per quanto Wii U abbia vendite scarse, si tratta di una consolidata strategia vincente per grandi e piccini, che comunque è sempre ti afferra per le palle. Allora vedi, allora sei un bastardo, sei. Lo vedi che quando vuoi, okay. Cioè così l'hai letta così. Allora io no, 4, io metto 3, cioè proprio, no. Proprio per punizione. Ma è che prima ero, no, devo fare un po' di rodaggio. A parte sinesteticamente, lo sapete, comunque, ragazzi. Sinesteticamente dovete perdonare. Insomma, questo è un coefficiente di difficoltà 11, per cui insomma. Sì, avevo un grado di sfida un po' troppo elevato per la tua lettura, comunque, però insomma. Soprattutto. Quindi Luigi, adesso mi è venuta voglia di mangiare soprattutto tanto abbiamo capito chi è che ti foraggia. Questa è la sì, è prenatale. È Ferrero. Sì, sì, penso di aver detto già tutto nella tua prolusione che hai gentilmente letto. E niente, non so cosa dire, cosa aggiungere. È la prima cosa che mi viene in mente: perché continuiamo a giocare ai Super Mario? Perché dobbiamo annoverarli fra i nostri videogiochi assieme a, che ne so, l'ultimo Resident Evil, sparo così, o l'ultimo Silent Hill, comunque l'horror e Super Mario che convivono. E secondo me è proprio per questo, perché c'è un insieme di eventi studiati a tavolino, così come quando Nintendo, quando le case di produzioni nazionali giapponesi studiavano i percorsi della Walt Disney, cercando di riproporli a livello di cartoni animati e di appeal anche per lo spettatore. Così fa secondo me Nintendo, proprio un settore marketing di ricerca per quanto riguarda la pubblicità, riguarda ciò che il brand deve dare all'esterno come immagine. E con Mario riesce a vincere. Se voi analizzate davvero la copertina di Super Mario, se l'avete davanti, il del 3D World, c'è proprio il rosso di Mario che spicca sopra la scritta, che è fatta di lettere tutte colorate in maniera diversa, i colori primari accesi, la M rossa, la verde, la R gialla, la I blu, azzurra e la O sul rosa, e poi questo Mario gatto che sta sotto giallo che spicca contro il verde dei prati che sono lì giù, con dietro anche Luigi vestito di verde. E niente, c'è qualcosa di assolutamente giocoso, brillante, sinestetico. Noi riusciamo a sentire quasi un sapore vedendo tutta questa ricchezza di immagine. Cioè, se ci fate caso, l'immagine è molto molto ricca. Hanno concentrato tutto quanto assieme, sia il contenuto che presumibilmente si trova nel videogioco, ma sia proprio l'esplosione di colori che assieme vanno a formare una copertina, una cover sgargiante e al contempo calda, abbracciante, mi viene da dire. Qui secondo me c'è la filosofia di Nintendo su come fa presa, come fa gola, mettiamola così a questo punto. Riesce a vincere, essere vincente. Fateci caso, la PlayStation 4 ha scelto le cover di plastica blu, questo blu scuro fondamentalmente. Nintendo, la Xbox è rimasto sul verde, forse meno fluorescente rispetto al verde come siamo abituati col 360. E lui invece, Wii U, è passato dal bianco che era prima il Wii, appunto, a questo turchese. Io lo chiamo turchese come copertina dei loro giochi. C'è sempre quell'aspetto di colore, non puoi sfuggirgli. E se ci fate caso, la copertina di Deus Ex, Ex Human Revolution, il gioco Squaresoft, insomma, che è molto cyberpunk, ci stona vicino a Super Mario con quel blu. È qualcosa di strano proprio, non ce lo vedo. Lo stesso Batman Arkham Origins, che è uscito su Wii U, su questo azzurro vedete che c'è qualcosa che non è stato pensato per Batman e Deus Ex, ma è stato pensato molto invece per Super Mario, Nintendo Land, lo stesso Zelda che è uscito con il remake in HD di Wind Waker. C'è qualcosa che è studiato alla base, secondo me è, sì, riesce a essere vincente. È un po' come, se vi ricordate, le cartucce prima serie dei giochi per NES, no? Che erano tutti uniformati secondo quello standard, e poi quelle che uscirono dopo anche di terze parti, non so se vi ricordate, no? Sì. Cioè tu dici tipo, sì, sì, quella rossa di Carnage, dico, no, tu hai presente la prima serie, la prima batch di giochi per NES 8-bit, ricordi che erano, sì, tutte quella copertina particolare, ti ricordi, con tipo una grossa immagine, sfondo nero, grossa immagine pixelata, te lo ricordi? Sì, sì, sì, gioco, tipo, allora Mario da Canto. Esatto, esatto, quelli... esatto. E poi tutta l'altra serie, diciamo, a fine... generazione del NES, che erano completamente diverse le copertine anche degli altri, sì, giochi, mm-hmm, e non si sposava, cioè, esatto, il microcosmo della grande, mm-hmm, N, anzi della N, facciamo così, sì, al titolo, si basa su un reparto anche marketing di post vendita, mm-hmm, quindi di fidelizzazione, legato, sì, come sappiamo, ai punti della Nintendo, i monili, gli oggetti, i gadget e via cantando, mm-hmm, che non sono presenti invece in Xbox, sì, in Microsoft e in Sony. E questo fa la differenza, perché quando noi pensiamo a Xbox e a PlayStation 4, adesso pensiamo al contenuto, sì, del gioco e basta, ce ne frega più che altro la copertina. Può essere forse una versione quella limitata, allora, mm-hmm, magari anche pure, ma altrimenti non ce ne frega nulla, mm-hmm, più di tanto. Invece, come stiamo attenti quando compriamo Nintendo a vedere come sono le copertine? Ah, soprattutto un'altra cosa è che ogni volta che apriamo un prodotto Nintendo fisico, a noi ci preme anche prendere la schedina quella là e andare a riscattare i punti, le stelle Nintendo, punti, no? Sì. Che questa è, diciamo, quella fidelizzazione che era tipica anche non solo con Nintendo, ma anche con altri, diciamo, giocattoli fisici, diciamo, che non hanno niente a che vedere con quelli videoludici, no? Che c'erano pure. Sì. Quei punti premio per ottenere altre cose. Guarda, è molto semplice, mm-hmm, il Kinder Sorpresa. Esatto, esatto, il Kinder Sorpresa. Cioè, se ci fate caso, aprete il Kinder Sorpresa, mm-hmm, tu puoi vedere che sorpresa c'è, mm-hmm, all'interno. Sì. Cioè, lo compri anche per quello. Esatto. Tu sai che comprando Nintendo ci sono anche dei punti all'interno, mm-hmm, che ti possono far acquistare altre cose, mm-hmm, a livello digitale o a livello fisico, sì, anche, perché accumulando punti faccio arrivare il portachiavi, faccio arrivare il mazzo di carte, di adesivi, mm-hmm, adesso non mi ricordo. Le carte della Yakuza, naturalmente. il kit son, insomma, diverse cose, sì, sì, no, ma non è da sottovalutare questo aspetto, sì, sì, qui, perché la gente si fidelizza tanto per una stronzatina che riceve a casa, mm-hmm, pagandola fior fior, perché ci vogliono bei punti, mm-hmm, per ricevere anche una stupidaggine. Eppure questo è il segreto delle patatine che si aprono e dentro c'è la sorpresa, sì, o c'è il giocattolo. Tant'è che infatti poi Nintendo ha cercato con Wii U di fare anche un passo avanti col discorso quello dell'eShop, che ogni X euro spesi sull'eShop del Wii U poi loro ti rimborsano con buoni per poter comprare altre cose, no? Questo solo per chi però ha acquistato il Wii U, sì, sì, sì, se ti ricordi, sì, sì, il primo gioco. Però diciamo Nintendo comunque diciamo, ha voluto continuare, diciamo, estendendolo questo concetto, no? Sì, sì, sì, sì, sì. No, è questo, è... cioè, secondo me, mm-hmm, molto rotato. Non possiamo tralasciare nel mondo dei videogiochi, ecco, secondo me si fa, sì, un grosso errore, mm-hmm, a paragonare Nintendo a Microsoft e Sony, sì, soltanto da un punto di vista di vendite, mm-hmm, o da un punto di vista di prodotto che offre meno, sì, ha avuto un calo rispetto a prima, mm-hmm, cioè bisogna considerarlo come un giocattolo, esatto, diverso, e non c'è questa serietà di approccio, non dovrebbe esserci questa serietà di approccio analitico che si usa, secondo me, per le altre software house, mm-hmm, o hardware house, mm-hmm, è proprio differente, cioè Nintendo è un'isola nel mondo dei videogiochi, e la stessa Sony si è totalmente dissociata dal mercato giapponese, inteso come anche come presentazione di facciata della console, mm-hmm, la console è stata presentata per PlayStation 4 in America, sì, è uscita prima in Europa e in America che non in Giappone, uh-huh, cioè un'inversione di tendenza tremenda rispetto agli anni passati. Nintendo invece no, uh-huh, Nintendo non ha mai snobbato il, uh-huh, pubblico giapponese, è fiera proprio certo. nazionalismo, della propria sì. radice orientale. E questo secondo me fa proprio la differenza quando devo analizzare tutto il mercato dei videogiochi da questo certo. punto di vista. Cioè una concessione che ci fa Nintendo, che sta in Europa. Beh, sì, c'è un buon mercato. Per quanto riguarda comunque la Sony, non è che ha snobbato la, cioè non è che ha fatto un favore all'Europa, ha fatto un favore al Giappone. A noi ci ha dato le prime copie con i problemi, e loro tanto si prendono quelli migliori. Cioè, No, vabbè, ma a parte questo, ma ci mancherebbe, Marco. Però il fatto è che è strano, perché di solito siamo sempre stati i secondi mercati noi. Ma Sony adesso delle invece, console giapponesi. Sony pensa diversamente. Adesso il primo mercato è il mondo. Il primo mercato adesso è il mondo, insomma, non è soltanto il Giappone. Loro mirano a conquistare l'universo. Per cui è proprio un approccio diverso, ovvio. È vero, ma poi immaginati di presentare la propria console fuori. Cioè, non so se vi spiego, è come se la Fiat, faccio un esempio, fa una nuova macchina grossolanamente potente, bellissima, mostrare, e la prima esposizione che fa di questa macchina invece ai propri stabilimenti la va a fare a Monculo, in Giappone. E tu dici, ma scusami, la Ferrari, esatto. Ecco, forse si capisce di più. La presentazione della Ferrari, invece di farla a Maranello, che ne so, la fanno in Svezia. Negli Emirati Arabi, dai. E c'è, c'è qualcosa che lo capisci perché lo fanno lì, magari, per carità. Uh-huh. Però non c'è quella fierezza nazionale di dire, è fatta qui, presentiamola prima qui e poi magari in altri mercati. E Nintendo, Sony ha fatto questo passo qui. Nintendo secondo me non lo farà mai. Cioè Nintendo non il fatto di prediligere prima un mercato piuttosto che non c'è. Cioè, secondo me adesso, poi se cambieranno le politiche, per carità, è molto molto nazionalista. Anche se leggete i tre libri che sono usciti sulla storia della Nintendo, c'hanno un accentramento ideologico, politico, post dopoguerra, seconda guerra mondiale, che è fondamentalmente incentrato sul proprio mercato, totalmente. È vero, cioè nel senso è nata in Giappone e loro la vogliono mantenere in Giappone per i giapponesi. Morite gonfi anche. Esatto. Hanno quella i giapponesi hanno sempre quella tendenza patriottica, un po' come gli americani. Si sa che tipo Sony Giappone, Xbox, cioè Sony Nintendo Giappone, Xbox America, è un po' come se mantenessero appunto l'esempio della Fiat per gli italiani e così via. E quindi insomma è una cosa abbastanza diffusa e normale. Poi si dice, cioè, ci sono anche gli altri mercati, la vendiamo anche lì, qualcosa la tiriamo fuori. Però ecco, mi sembra che la Nintendo rispetto alla Sony ad esempio abbia una chiusura molto maggiore. Sono tutte e due giapponesi, tutte e due nate al Giappone, ma la Sony mi sembra che sia ampliata in maniera più occidentale, da capitalismo occidentale classico, mentre invece la Nintendo si è rimasta più per i fatti suoi e continua a farlo nel bene e nel male della cosa, Bene. No, ripeto, secondo me bisogna avere proprio questa sensazione quando si acquista Nintendo, che non stai acquistando qualcosa paragonabile a Sony o Microsoft come filosofie, come tutto. Io, almeno così mi succede quando approccio un prodotto. Non dico quando mi comprerò Bayonetta 2, perché è lì ovviamente c'è tutta l'influenza di Platinum Games, se non sbaglio, quindi uno sviluppo già consolidato su altre console e via cantando. Ma se vado a comprare Super Mario o questo Zelda che ho preso, lo senti che non è paragonabile né a Sony né a Microsoft, è proprio un mondo di videogioco, di giocattolo, di amore, di passione, di tradizione, ecco, totalmente. E questo è il fatto, bravo, e questo è il fatto che io sottolineo spesso, che si fa poi fatica a mettere, a analizzare e ad accettare. Per questo io dico sempre che poi alla fine le domande che stavo facendo prima erano più legate, cioè prima ho fatto la domanda, la console voi la comprate per l'esclusiva, cioè o no, alla fine sì, uno se la compra per l'esclusiva. Cioè, la gente si è comprata Wii, si è comprata Wii Sports, non si è comprata il Wii. Per quello poi la più della metà ci ha avuto sempre solo Wii Sports dentro o qualcuno Wii Fit, ma perché si comprava Wii Fit e non si comprava la Balance Board, ma si comprava Wii Fit. Ed è questo il concetto per il quale fino a qualche tempo fa noi ci compravamo le console, perché io mi ricordo che quando è uscito 360, PS3 eccetera, io rimasi impressionato da Gears of War, perché comunque era una novità, era una certa cosa. Poi dopo è diventato tutto Gears of War, ma vabbè. E beh, poi il mio motivo era anche Guitar Hero. Però è quello, cioè io so che tanto quando compro Nintendo, a me che mi esce uno Zelda, mi esce un Metroid, forse più o meno mi esce un Mario in qualche maniera, mi esce, e già mi sono tolto metà di questa generazione. Io ho comprato Wii U, già so che quelle cose ce le avrò, e so abbastanza per certo che io quando metterò dentro Mario Kart mi prenderà il mago, mi prenderà il piccolo groppo in gola, perché poi i stronzi rimettono le piste di 10 anni fa e hanno rifatto quella Nintendo 64, quella dello SNES rifatte e tutto quanto, e io mi ricordo da quando ci giocavo che avevo 15 anni di meno, e quindi un cuore piccolo così, e quindi mi farà questo effetto nostalgia, no? Sì. Però c'è tutto, è tutto legato alle esclusive sempre, che poi la gente, oh, perché non c'hanno le terze parti, perché non c'è, ma chi, non gliene frega niente a nessuno le terze parti, a meno che non c'è PC che è solo terze parti in tra virgolette, so, per fare. Per il resto uno si compra l'esclusiva, si compra. Per quello io sono passato a PS3 e probabilmente passerò a PS4, perché mi interessa quello che fa Cage, perché mi interessa abbastanza quello che fa Sony con tutte le sperimentazioni varie che fa, quello che fa Naughty Dog mi ha conquistato, e quindi a me Sony non mi dà, e Microsoft non mi dà più nessun appeal per ora, e quindi cioè, uno si è sempre orientato con quello. Dopo che il multipiattaforma sia diventato così importante, io ci credo poco, ci credo solo in termini di riviste, di confronti eccetera eccetera, e poi anche io ho detto più o meno tutto, insomma. Io vi lancio una provocazione, una domanda: secondo voi la prossima console Nintendo prevederà all'interno un discorso di realtà virtuale? No, solo in Giappone. No, assolutamente. No, io penso che loro dopo il Virtual Boy, e soprattutto un'altra cosa, io non so scemo ancora. Al limite ti faranno uscire prima un upgrade più potente, tra virgolette, con tutti e due gli occhi rossi. No, del Wii U col gamepad, però in 3D, come il 3DS, sì, no? No, secondo me, anche perché, cioè, aggiungevo che voglio vedere, se tu ti riferisci a questi nuovi visori, Luigi, voglio vedere pure che fine fanno questi visori, tolto la commercializzazione, vorrei vedere, cioè il pre-commercializzazione, vorrei vedere poi quando arriva sul mercato che crea. Sì, guarda, ho scritto appena un articolo che verrà pubblicato sul nuovo prossimo PlayStation Magazine. Ho fatto un po' di studi e di ricerche attorno. Fondamentalmente la maggior parte è introdurre un nuovo medium. La cosa più importante sarà introdurre un nuovo modo anche di visualizzare quello che adesso facciamo, ad esempio in maniera piuttosto limitata, con Google Maps, con Street View eccetera. Quindi siamo una sorta di senso di presenza, di telepresenza delocalizzata. Ti faccio un esempio: devo prenotare una stanza in un albergo. Sì. Mi metto il visore e vedo come esattamente l'ha fatta la stanza, quanto è grande, vedo come è fatta la piscina, oppure devo comprare una casa, allora fammi vedere se c'è l'applicazione in realtà virtuale, così esamino gli ambienti senza che faccio venire un agente immobiliare. Quindi c'è tutto un aspetto di, sai, che questa cosa ti costerà cara, questa affermazione mercato sugli agenti immobiliari. Sì. Cioè bisogna contemplare anche questo. Ma basta, scusa, però per dirti, no, dico, sarà praticamente quindi un'applicazione capillare all'interno di tutto un sistema, anche per esempio quello sportivo. Voglio vedere la Roma dagli spalti e poter girare come se fossi lì presente in tribuna. non pago il biglietto alla tribuna, mo scarico vicino in attesa, scarico la partita. E questa sarà una cosa. Uh-huh. Poi ovviamente quando sono entrata in maniera capillare, comunque sarà utilizzata. Poi non ci dimentichiamo che almeno Project Morpheus, il prototipo presentato da Sony alla Game Developer Conference, è stato creato di concerto con PlayStation 4 e con Move. Quindi i sensori di PlayStation Move sono, sono all'interno del casco, del visore. Lo stesso tipo di luce, colorazione, il tipo di movimento, di riconoscimento nello spazio è stato proprio integrato. Quindi noi lo vediamo come una sorta di scopiazzatura, vediamo, ma in realtà secondo me hanno un progetto in mente preciso su dove vogliono andarla a piazzare. Poi sugli applicativi, quindi anche sul software di intrattenimento come i videogiochi, su questo non ti so dire esattamente, perché sarà molto rimesso alla libertà che comunque PlayStation sta garantendo a molti sviluppatori. Questo te lo posso assicurare, perché io sto andando anche a delle conferenze che ci sono qui a Pescara, e vi dico che PlayStation è apertissima, anche i tool di sviluppo sono abbordabilissimi anche per dei piccoli sviluppatori. Sì, però se punta molto secondo me su come viene definito il mercato con le idee originali. Quindi non è che considera il suo progetto Morpheus tipo chiuso, non ci potete lavorare se non rispettate certi parametri. No, io di questo sono consapevole, però il problema è per dove sta andando la società, lo vedo veramente difficile stare tutti col casco o comunque fruire dei giochi in questa maniera massiva, ovviamente. Giochi penso anche io, anche perché per il gioco col casco va bene, un gioco in prima persona, in terza persona è relativo. Esatto. Ti dà un senso di profondità, ma poi alla fine c'è. Cioè, esatto, quindi non vedo proprio un... Secondo me si aprirà proprio tutto un genere di applicazioni di giochi specifici per queste cose, ma infatti penso che sarà adattato... Sì, ma scusate se cerco di ritornare a bomba, forse di farvi tornare a bomba su Nintendo. Non è comunque il genere di giochi che offre, cioè che per cui spinge Nintendo, che per cui spinge e crea Nintendo. Se lo dovesse fare, no, farebbe il gioco che non fa nessuno. Questo lo dico io, esatto, da Nintendaro, ma per me è così. Sì, ma bisogna ripensare totalmente il videogioco. Non è come lo conosciamo adesso, quello con l'arte virtuale. Però insomma, vediamo che forse l'argomento è esaurito, visto che siamo... Sì, sì, ti sento anche se sei anche tu, sento. Magari forse che ne dite, facciamo un ultimo giro sulla previsione in maniera molto secca, diciamo, secondo noi Nintendo ce la farà, non ce la farà con le attuali console, oppure chiudiamo? Sì, dai. Allora Giuseppe, dai, inizia. Ma io mi metto per ultimo. Secondo me, appunto, per quanto riguarda la situazione Wii U, sì, per quanto l'inizio di quest'anno è secondo me pessimo, il parco giochi continuerà a crescere, però Wii U resterà comunque la console di supporto. Per quanto riguarda il 3DS, invece, ti ho detto, continua a tirare ed è difficile che Vita, per quanto ora diciamo escono più giochi, la possa spuntare sul lungo periodo, ecco. Okay. E comunque 3DS continuerà a vendere più di Wii U, ecco. Bene, penso che dici che comunque 3DS è merda. E poi anche dire. Non c'è problema. No, quindi Marco, invece, te che non ti sento. Ma io non sono, ripeto, molto esperto della Nintendo. Io sono passato dal Game Watch al Nintendo 64 e poi basta, perché non ha mai, almeno alle 5 generazioni. Comunque Nintendo non ha mai avuto grande appeal su di me. Mario, stessa cosa. L'ultimo Mario con cui ho giocato ossessivamente saltava sopra i barili e andava a caccia di scimmioni, quindi qualche decennio fa. Bene, okay. Non mi è mai appassionato Nintendo, anche se Nintendo 64 mi ha dato dei giochi che mi sono rimasti tantissimo, ma non mi hanno mai spinto. Mario non mi ha mai spinto a comprare niente, anzi, tutto il contrario. E probabilmente non lo so, non, non, diciamo, l'afflato giusto per buttarmi nel mondo Nintendo, proprio non mi prende. Che cosa ne sarà di Nintendo? Francamente non ho la più pallida idea. Non odio Nintendo, ma neanche l'amo. Non sono un fanboy di Sony né di Xbox. Per cui se una chiude e ne apre un'altra, meglio, per me è uguale. Cioè, nel senso, fatemi giocare bene. Anche senza Mario, cioè tranquillamente. Vivo bene anche vivi senza bene Mario. Anche senza Mario. Va bene. Quindi niente. Ok. Luigi? Anch'io non saprei. Non sono un analista da questo punto di vista. Dai, se lo fa Paccio, lo puoi fare anche tu. Visione. Ma sì, ascolta. Ma sì, il mercato mobile sicuramente. Insomma, la vedo bene per Nintendo. È una di quelle. Aspetta, che posso. Sì, grazie. Okay. È una di quelle. Quelle caratteristiche, diciamo, sia della modernità che la contraddistinguono completamente, quella di portare il gioco con sé. Quindi vedo il 3DS ancora a cavalcare l'onda. Magari potrebbe uscirsi una nuova console portatile. Nulla niente, insomma, che sia sempre upgrade del 3DS, abbia qualcosa di particolare che non ci aspettiamo. Però non la vedo. Vedo viaggiare come sta andando adesso Nintendo Wii U. Non penso che ci sia questo coinvolgimento che ti fa dire: ah, adesso tutto il mondo a comprare Wii U. Non penso. Se l'è giocata già le sue carte. Quindi, appunto, la vedi col discorso che continuerà a campare, però come appunto console di supporto. Come tiriamocela a campare, insomma. Sì. Esatto. Stefano Brain Damage. Bene. No, io pensavo Simone. Io mi metto per ultimo in coda, in super coda. Il nostro fanboy di fiducia, nonché ideatore e autore, sì, della puntata che ringraziamo, tra l'altro. Comunque, la tua previsione secca, la previsione per quello che riesco a sentirvi, visto che la qualità è infima della chiamata, la mia previsione è che in qualche maniera si riesce a ritirare su, ma alla stregua di un GameCube. Insomma, non immaginiamoci assolutamente i fasti né del Wii né dello SNES. Quindi anche tu nella barca della console di supporto. No, è della console Nintendo, no. Perché sto supporto, cioè possiamo dire che potrebbe essere la seconda console, anche se io, per come vanno le cose, insomma, finché non esce qualcosa di decente, rimane la prima console accanto alla PlayStation 3 per ora, poi si vedrà, insomma. Comunque di affiancamento, dai. Sì, no, volevo dire che in questo caso l'affiancamento ve lo fa la PlayStation 3 adesso. Vabbè, Simone, ti sento, non ti sento, lo so. Te sento o non te sento? Ok, adesso ti sento benissimo. Appena detto lo so, ti per poi riscomparire subito dopo, ovviamente. ovviamente, questo è un grande classico. Vabbè, allora direi che resti tu, Stefano. Resto io che più o meno mi unisco a voi, appunto, come avete già detto, con ottima console di supporto, ma che a questo giro difficilmente, secondo me, riuscirà a superare le altre due grandi. Io spero sempre che la Sega faccia una console, sinceramente. No, il fatto che poi la prossima console che lancerà Nintendo sarà il Dreamcast 2, visto la partnership, esatto, con Sega, no? Ma guarda che se lo facessero io lo comprerei al day one, pure se mi fanno uscire solo Angry Birds, guarda, solo perché c'è scritto Dreamcast. Angry Birds versione, no, però quella gotica. Sì, esatto. Noir. Non so com'è Angry Birds versione gotica. Non so, con gli uccelli di scuri. Che è brutto dirla così, gli uccelli scuri, però. Gli uccelli scuri, vabbè, c'è cose che possono piacere o non piacere. No, non è un problema. Comunque, quindi niente, io ne approfitto, chiudo l'episodio con un colpo di mano. Saluto il Simone Pizzi. Come non ce l'aspettavamo? Simone Pizzi, che dovrebbe essere vivo nei meandri della sua casa, posso credo. Posso alle mie spalle a giocare con un cellulare, non so, peso. Ancora. A Candy Crush Saga. Steso come un sirenetto. Oh, ecco. un'immagine bellissima. E niente, vi saluto, ringrazio. Doom and quindi Destiny, sto giocando a Doom and Destiny. Conclusione. A Doom and Destiny, bravo Simone. Allora quindi, scusate, a questo punto faccio spam, se volete sapere di che cosa è Doom and Destiny, andatevi ad ascoltare l'ultima fantastica puntata dell'Occhio del Beholder. Esatto, dove c'era anche il sottoscritto, esatto, tra l'altro, quindi due al prezzo di uno, 3x2 come ha detto Marco prima. E niente, quindi ringrazio Luigi. Luigi, dove ti possiamo trovare? In generale, a Pescara, mi direi tu. Potete leggermi su PSM, PlayStation Magazine, nelle edicole verso la fine di ogni mese, o scusate, abbasso il volume, o verso l'inizio, no? Di cosa successo, oppure esatto, in digitale, scaricabile regolarmente dallo store. Diciamo della Sprea, credo. Sì, sia nello store della Sprea, Games Village, quella roba lì, Sprea. Yes. E niente, poi dove potete trovare? Sì, brownlewis@hotmail.it è la mia mail informale. E basta, quindi saluto tutti quanti. Bene. Ciao e grazie. Bene. Marco? Io, come al solito, innanzitutto ricordo la mitica campagna Carcer Q, arrivata a 64 del 50. Però purtroppo ci sono state delle spese impreviste nel frattempo, quindi abbiamo perso qualche euro, poco, qualche centesimo. E quindi mi raccomando, per comprare il mio nuovo computer che servirà a fare i nostri fantastici video, che potete vedere sul nostro fantastico canale YouTube appositamente chiamato Dietrologia Videoludica. E esatto, ricordiamoci, perché stanno uscendo nuovi video, sciorbole. Quindi ci saranno tante belle cosine da vedere prossimamente. E poi cos'altro? Sono rintracciabile su Google Plus, sono omonimamente me stesso, quindi Marco Gualdi il distruggitore. Su Facebook potete cercare Chaindog, è un po' complicato cercare il distruggitore, magari scappa fuori qualche cosa, ma soprattutto è inutile che mi cercate, vi cercherò io quando serve. Esatto, bene. Invece Simone, cognome, se riesci. Mi senti? Pronto, Simone? Sì. Eccolo. Sì. Quindi, a te invece dove ti troviamo? Allora, mi trovate esatto, tutti i martedì, qui. Andate su www.freeplaying.it e venite a sentire la diretta del podcast numero due volte in top episodi podcast di iTunes, una vera truffa. Anche esatto, senza R, una tuffa. E mi trovate su The Shelter Network. The Shelter Network.com. Network. Sì, e The Shelter Network.com.it, quello che vi pare. Chiocciola Ben Malausene su Twitter. E qui vabbè, su dietro e davanti i microfoni di Dietrologia Videoludica e basta. Bene, io invece sono Stefano Biggio, sono stato, lo sono ancora e spero di esserlo ancora per un tempo, insomma, accettabile per la vita di un essere umano. Almeno fino alla prossima console, insomma. Esatto, fino alla prossima console. E mi trovate appunto su Retrocast, prima o poi ci decideremo a fare il grande salto e scoprirete che cosa sarà, ma forse dovremo muoverci prima o poi. Ogni tanto mi trovate anche su Free Playing, ogni tanto mi trovate su Dietrologia Videoludica, mi trovate in giro, mi trovate anche su Facebook, sull'occhio del Beholder. E credo basta, no? Non ti aiuto. Quanti podcast? Beh, ogni tanto passi pure da noi ormai. L'ho appena detto. Sì, scusa, l'ho detto. Sto dormendo. Se poi andate in Svizzera, dormire è bello. Se poi andate in Svizzera, dov'è che operi la tua. Io da Zurigo mi trovo a Zurigo al bar De Noantri. Faccio un volo a Pescara a Zurigo. Allo Schwarzsteiniger bar. Mi raccomando, chiamate solo ore pasti. Giustamente, chiamare ore pasti, no pelosi, automuniti, milite esenti. No pelosi è molto importante. È molto bello.